Este vídeo es el del día 29, después de que Luca haya caído, cayó del, no sé si lo sabéis, de una torre de alta tensión donde se subió y después de que fuera la policía acabó tocando los cables y cayó del 10 metros. Y allora lui era caduto il 25, siamo andati immediatamente sulla ferrovia, l'abbiamo tenuta occupata fino al 29 quando poi sono venuti a recuperare. Y según ha ocurrido eso, han ido a la línea de tren y la han tenido ocupada hasta que lì era l'autostrada, quella lì era sull'autostrada, sì. E c'è anche un altro video precedente dove c'è la vita della libera Repubblica della Maddalena. Ah, e hai altro video che sarebbe di un po' antes, che è sulla la vita della Repubblica Libera della Maddalena. Dove c'era un museo e l'area archeologica e le vigne, e adesso è diventato la caserma. Sì, e tutta questa zona di viñedos, museo, le vigne, il museo e l'altra cosa. Il sito archeologico. L'area archeologica, e ora hanno posto sito un quartel dove tienen a los más de 1000 soldados che stanno tutti i días in zona. Ecco, e lì dovevano arrivare perché avevano provato ad entrare dall'autostrada, perché proprio a ridosso delle gallerie dell'autostrada. E allora noi quando abbiamo visto così avevamo occupato il posto, avevamo fatto le barricate per impedire che loro uscissero dall'autostrada e che, sì, che venissero a prenderci il posto. Lì l'abbiamo tenuto per un mese e mezzo, tra l'altro. Perché stavano... Bueno, de todas formas está loco siempre, ¿no? Porque estaban queriendo salir de la autopista para entrar en esa zona y les han tenido un mes impidiéndoles que pudieran acceder al servicio. Sí, y sono poi arrivati il 29, il 27 di giugno. E hanno sgombrato la Libera Repubblica della Maddalena, dove vivevamo, avevamo fatto un campeggio, avevamo le cucine e quindi stavamo giorno e notte lì per vedere. E ha sido il 27 di giugno, o sea, hace casi un anno, quando hanno fatto il desalojo di questa Repubblica Libera della Maddalena, dove stavano vivendo con una campana stabile completa, ¿no? Cocinando, convivendo. E poi la mattina all'alba del 27 sono arrivati, noi eravamo tutti sulle barricate, ci hanno buttati fuori dalle barricate, nel senso che hanno proprio tagliato le barricate, poi si vedrà se vogliamo vedere, c'è il momento in cui tolgono lo sgombero. E sulle barricate c'erano soprattutto le donne, no? Quindi sono venuti, hanno tagliato le barricate sotto i piedi. E poi ha cominciato a tirare lacrimogeni, ci hanno spinti su per la montagna. Un attimo, perché sì, e entrasse questo dia per la mattina, stavano con noi sulle barricate, soprattutto in la mentalità delle donne, e hanno arrivato, le barricate stavano unite al suolo, le hanno ido cortando, e con casi lacrimogeni le hanno empujando hacia la ladera de los montes. E quello è l'altro filmato. Allora vediamo da dove dobbiamo partire. Cosa volete fare? Vedere prima i filmati e poi cominciamo a parlare? Sì, sì, credo che vediamo prima i video o al revés, prima nos conta Loretta e poi vediamo. Come volete voi, se volete partire dal video, forse. Qual meglio il video? Non lo so, è Sono dei pezzi brevi, sono 5 minuti, ci sono vari pezzi diversi. Ritorniamo all'insieme, così vediamo di isolare qualche... Allora, io vedrei... Allora, anche i peccati della Maddalena sarebbe interessante e poi abbassa un po', cioè alza un pochettino, volevo vedere ancora un po'. Cantiere, fantasmi, cantiere, Susa, le tocchi a mano. Cantiere, fantasma e chi? Fratelli, fratelli di età, guardando, notà, battaglia contro, ecco, anche quello lì, contro, ecco, quello là, poi lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, anche quello è da vedere. Si potrebbe partire dal primo, i peccati della Maddalena, dove si vede come vivevamo. Primo poi c'è lo sgombero, sì. Ecco, il primo è quello. Vediamo cosa dura. Insomma, 20 minuti. E allora sono tutti tra tutti. Da metà maggio del 2011 il movimento No Tav si è installato alla Maddalena, una località nei pressi di Chiomonte, Val di Susa. Protetta da alcune barricate, nasce così la Libera Repubblica della Maddalena, costituita per impedire lo scavo di un tunnel esplorativo e di servizio. Forse qui servirebbe forse togliere il video, io racconto di che cosa si tratta e tu traduci. Ma quindi togliamo l'audio, no? L'audio. Perché vediamo soltanto l'audio. Dobbiamo fare il volume. Sì, riusciamo. Ecco, allora, qui è il primo filmato. C'è questo primo video? Scusate, perché è l'avvocato che mi chiama, che ci sono dei casini. Sì, scusate solo un momento. Pronto? Com'è? Sì, sì. E mi ha tenuta due ore, un'ora e mezza lì, poi mi ha detto lei può scendere e avevano lasciato solo la mamma di Daniel. E io ho detto no, io non scendo se non fate scendere anche lei. Mi sono messa dietro, mi sono messa a telefonare. A un certo punto hanno aspettato un po' e poi hanno fatto scendere anche lei. Perché lei voleva portarla via. E siamo andati a urlare. Va bene? Ciao, ciao. Allora, qui è una, lì è quando arriva la ruspa da sotto. La Libera Repubblica della Maddalena l'avevamo messa in piedi proprio per impedire che venissero a prendere possesso dell'area dove volevano iniziare. Sì, l'avevamo programmato invece la Libera Repubblica della Maddalena, era giusto per che non potessero arrivare nel punto che a sorda se ne sapono la, ecco. Che quello che si entrava al tunnel. Sì, abbiamo fatto le barricate. E poi le abbiamo difese quando il 27 di giugno sono arrivati e ci hanno sgomberati. Sì. E lì è il momento in cui dello sgombero, no? Vi hanno chiesto a sbaglia che avevi visto a un momentito che hanno stato tenendo hasta il 27 di giugno, che è quando arriva il salotto. Sì. E lì è il... ecco. Lì dove eravamo noi, lì c'era gente che guarda, lì ormai eravamo andati, ci avevano respinti su per la montagna. Sì, les habían ido empujando, vamos, apresurando para que acabaran subiendo por las vegas. ¿Cuánto tiempo estuvo la República? Un mese e mezzo. Un mese e mezzo. La Libera Repubblica della Maddalena, magari raccontalo, era al culmine, era intanto un museo locale. Con i reperti che avevano trovato nel sito archeologico di 6.000 anni fa, quindi neolitico di 6.000 anni fa. Vale, pues, al final acababa teniendo un museo con todo esto que se estaba contando en la zona arqueológica de 6.000 prima di Cristo o 6.000 anni fa? 6.000 anni prima di Cristo, no? O sea, de hace 8.000 anni. Sì. E quindi, allora, sotto la Libera Repubblica c'erano le vigne di un vino pregiato che si chiama la Manà. E adesso non c'è più accesso neanche alle vigne perché hanno bloccato tutto, hanno chiuso i cancelli e hanno circondato con muri, reti e filo spinato. Sì, hanno questo alambre di spino, muros, vallas e tutto per che dia accesso a questa zona di vigneto. Allora, lì stanno raccontando la storia della zona, com'era la zona dove noi avevamo occupato e poi c'è la storia dell'occupazione da parte loro, ecco. Lì sono le nostre feste, è importante vedere che ci sono persone di tutte le età, abbiamo fatto tutta una serie di magliette, di perché è diventato un simbolo anche, no? C'è la bandiera, qui c'è la bandana, la bandiera sì, che se la sta portando nel collettato dalla... Sì. No, io sapevo tutto il mondo che questa è la bandiera. Questa qui è la bandiera che ormai è diventata il simbolo di una lotta che va oltre la lotta per l'unità. Se volete mettere, quanta gente è stata là in questi giorni? Ah, ma le nostre manifestazioni, se sono di poche persone, sono non meno di 5.000 persone. Abbiamo fatto manifestazioni di 60.000 persone. Quando sono di poca gente, quando sono 5.000, per questo sta. Ecco, qui vedete, c'è gente di tutte le età che viene anche da fuori, quindi è una lotta che noi chiamiamo popolare perché lo è veramente, quindi è una lotta che è fatta, lì è Maria. Sì, che le chiamano lucha popolare perché veramente lo è. È una lotta popolare fatta di uomini e donne di tutte le età. Delle mujeres de todas edades. E delle storie più diverse. L'unica realtà che non accettiamo è quella dei fascisti, perché i fascisti non li vogliamo, la nostra valle è una valle antifascista di tradizioni. Dove era comunque nata la lotta partigiana fin dal 43. E che sono los únicos che non entrano per le más di todo tipo di storie anteriori come in tanto il mondo. Perché io già tenuto la tradizione e non hanno lasciato che entrare. Quindi, vedete. Ma anche i fascisti si volevano mettere insieme. Ma i fascisti sono sempre stati a favore dell'alta velocità perché tutte le cose dove ci sono comunque, c'è potere, loro ci sono e c'è anche la campagna. Poi, che stavano desde il principio a favore del progetto del TAP, los partidos che hanno matricolato questi, no? No, proprio quelli Casa Pound, Forza Nuova e... E poi a un certo punto, quando hanno visto che la gente cresceva e che quindi la lotta diventava grande, hanno tentato di infilarsi, però nessuno li ha voluti, no? Anche la gente più moderata, più tranquilla. Sì, ma poi penso che loro già hanno visto che parecchio caro ganatori se l'hanno intentato mettere, però ni siquiera lo mal moderato se ha portato perché pudieran entrare. Ecco, lì. E lì adesso si vedrà il momento dello sgombero. Ecco, guardate, vedete, sono lì è l'autostrada e hanno occupato l'autostrada, poi hanno occupato naturalmente lì la gente che corre. Sì, hanno creato pista, poi siamo eccoli, questo quando la gente cerca di avvicinarsi alle reti. Questo era il 3 luglio, questa cosa qui. Quando la gente cerca di avvicinarsi alle reti, naturalmente loro intervengono con i lacrimogeni, che sono quelle cose lì. Sì. Sono sono lacrimogeni non normali, ma sono lacrimogeni al CS. Al CS sono quelli che hanno cominciato a tirare a Genova nel 2001 e che adesso sì. CS sono il tipo di lacrimogeno. E adesso li usano sempre, li hanno usati contro di noi, ma li usano anche contro gli operai che occupano le fabbriche, quindi in questi momenti in cui rinasce la lotta sociale, usano contro di tutti quei lacrimogeni lì. Aspetta un attimo di cruda. Che sì, lo che stanno usando sono ese tipo CS speciale di lacrimogenos. Que la primera vez que los usaron fue para la de Génova, pero ahora los estamos usando aquí siempre y en todo tipo de otros conflictos, los estamos usando ahora por todos lados. Ecco, questi lacrimogeni, tra l'altro, sono vietati dalla Convenzione di Ginevra in guerra. Stanno proibiti se in caso di guerra. E loro li usano contro la popolazione inerme. Sì, contro la popolazione lo stanno usando. Allora, contro i lacrimogeni, tutti noi ci siamo comprati le maschere antigas. Sì. Però, se ti prendono con le maschere antigas dentro allo zainetto, o se te le sequestrano, ti denunciano perché dicono che volevi travisarti. Cioè, quelle sì, mascherate. Sì, che la razón es que tú llevas la máscara antigas para eso, pero si la llevas en la, dentro de la mochila, te pueden denunciar y te la, se la quedan, o sea, como se te la retienen, porque dicen que lo que quieres es que no se te vea, no se te reconozca. Ecco, lì, adesso poi, se riusciamo a trovarlo, vi faccio vedere il dettaglio di quella scena. Lì, io te video con le ecco, lì era il 3 luglio quando avevamo cercato di andare a tagliare le reti. Sì, perché una volta la perfasse. Ecco, allora hanno tirato dentro questo ragazzo che era con noi e poi l'hanno picchiato selvaggiamente. Vale, che l'hanno cogito e l'hanno messo con dentro della polizia e l'hanno dato una palizza. Ecco, lì siamo alla centrale elettrica di Chiomonte e c'è la gente che preme, tiriamo giù il cancello, vedete? Lì non ci sono solo i giovani, come vedete ci sono persone di tutte le età e sono tutte assolutamente d'accordo a compiere delle azioni che sono azioni di autodifesa e di liberazione del nostro territorio. Sì, che tutti quelli che stanno lì di distinte edades stanno tutti d'accordo, no? Stanno facendo una cosa o l'altra per fare queste azioni. Sì, che tutti lo intendono come autodifesa. E qui in seguito a questi momenti lì in seguito a questo ci sono state le denunce e sono finiti in carcere 21 compagni. Sì, per questo che hanno denunciato 21 compagni che le sapeva. Ecco, tra gli altri c'era il barbiere di Bussoleno. Mentre io sono il barbiere di Bussoleno. Che è stato denunciato perché aveva preso un lacrimogeno, no? Che ci stava avvelenando lì e l'ha buttato via. A volte si vede. Sì, che l'hanno denunciato per cogliere il lacrimogeno e tirarlo. Ha tirato indietro il lacrimogeno perché non poteva mica tirarlo sopra la gente, no? Quindi l'ha tirato via e si è fatto. C'è un compagno che si è fatto 3 mesi di carcere per quelle scene che tutti abbiamo condiviso. E tutti abbiamo fatto, perché di lacrimogeni presi e buttati via, quei guanti lo faccio anch'io. Quindi. Sì, lei era mia la ex, mica glielo gettavamo su di loro, visto? Glielo rimandavamo. Sì, però era che se lo stavano tirando la polizia, ne si chiede sempre di quitarlo para che non ahogasse. Allora, in realtà quegli arresti sono stati fatti soltanto su alcuni compagni, perché. Sì, chiunque di noi proprio perché cercano di dividere tra buoni e cattivi, cioè quelli della Valle di Susa che sono delle brave persone, quelli che vengono da fuori che invece hanno altre finalità che non sono solo la difesa del territorio. Sì, per fare la divisione tra i buoni di Susa e i che vengono da fuori con altre intenzioni. Guardate, lì aveva preso fuoco il bosco per i lacrimogeni che loro avevano tirato. Noi eravamo sotto, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, non li hanno lasciati passare. Abbiamo chiamato un bombero che non ci hanno dejato entrare per prendere una palla. No. Ah, per quello era l'acqua da sopra. No, sopra c'era. C'erano poliziotti sopra. Allora noi abbiamo cercato, visto che non hanno lasciato arrivare i vigili del fuoco, sì. Abbiamo cercato di spegnere con le frasche di incendio. Sì, che come non le dejavamo passare in un caso la bombera, quindi noi non avremmo mai dato fuoco al bosco, perché il bosco noi lo rispettiamo, è anche un patrimonio comune, poi ci sono gli animali, eccetera. Sì, nosotros nunca hubiéramos dado, hubiéramos prendido el bosque, no? Perché lo facciamo su un territorio comune. Allora lì il bosco aveva preso fuoco perché naturalmente loro avevano buttato i lacrimogeni che hanno le scintille, aveva dato fuoco, sì, ecco sì. Guardate, sì, quelli sono i lacrimogeni, frammentazione, questo qui gli hanno sparato un lacrimogeno in faccia, perché loro invece di tirare in alto che poi ricade giù, te li sparavano direttamente in faccia, ti sparavano in faccia. Questo è il piccolo della Maddalena. Adesso vedrai però l'altro invece della parabola di Chianoso, allora, quello che abbiamo cominciato a vedere prima. Sta pochettino, sta arrivando. La parabola di Chianoso, no, il primo no. Che è qua. Questo qui è del sì, ma se vuoi, altrimenti ve lo posso raccontare io. Però l'audio è interessante perché si sentono i rumori. No, ricordatelo no. E poi sì. Ne parliamo dopo. Situazione. Hanno richiesto di togliere i blocchi sì. Senza bloccare i lavori là. Mi pare che vogliono solo fare una scelta di autorità e di potere, non vogliono discutere questo. Mi pare assolutamente evidente, no? La sordità del potere dei servizi. Allora, dietro di noi, in punta alla rampa dell'autostrada c'era tutta la gente che premeva per salire. Sì, quindi noi sono... siamo lì, però c'è molta più gente sotto. Sì, le demás che stavano intentando subire a questa zona stavano un po' dettagli. E poi lì cominciano a portarci via. Eccolo qui. qui c'è quella scena che abbiamo visto prima dello sgombero, che trascinavano quella persona per terra. Lì noi operazione Hunter l'abbiamo chiamata, cioè operazione cacciatori e dettagli. Dobbiamo sapere il dettaglio di quello che ha passato quando lì non... Avete visto che tiravano dentro? Adesso noi abbiamo fatto il dettaglio per denunciarli, perché loro fanno i dettagli su di noi, ma noi l'abbiamo fatto su di loro. E li vedrete. Eccoli. Qui sono dentro al museo, nella zona del museo. Dove c'era la nostra libera Repubblica della Maddalena, quindi loro rientrano dopo che ci hanno tirato i lacrimogeni addosso, no? Sì, con tutta la gente intorno. Ecco, voi avete visto il particolare di quel compagno che viene trascinato dentro. Lì è il dettaglio di quel particolare. Eccolo là, lo vedete? Ecco. Adesso li vedete, lo prendono a calci. E lo portano dentro le reti. Naturalmente sopra c'è sempre l'elicottero che costa 4.000 euro l'ora a far volare quell'elicottero. Non è perché l'hai sentito l'elicottero? 4.000 euro. Ecco. Qui dice al rallentatore. Ecco. Qui l'abbiamo fatto al rallentatore in modo che lì dentro sono solo loro, Tipo questo è già la serma. Sì. Sì, è successo dalla zona dei riguardi che ha montato. Vedete, lì hanno chiuso con le reti perché non esistevano quelle reti, lì era tutto aperto, c'erano fiori, c'era la lavanda. Perché questa è la. L'edificio fatto voi. No, quello lì è il museo. Ok, quello è È il museo, quello sì, museo. Sì, è stato un museo che ha convertito la. Esattamente, quindi lo portano nel loro edificio. E lì vedrete adesso. Ecco lì, adesso riprende 1, 2, 3, 4 alcuni particolari. Una serie di foto scattate sul luogo al momento del momento del ecco. Vedete che hanno anche bastoni, oltre ai manganelli usano i bastoni di legno, ma lo fanno apposta perché bastone lo fanno apposta per dire che in realtà ci siamo picchiati da soli, sì, para che digan che in realtà si hanno pegato los manifestantes entre ellos con los bastones que usavano. Nel 2005 a me avevano spaccato il naso, io li ho denunciati, loro hanno detto che me lo sono rotto da sola. Il denuncio che si fare acceso. Per darlo quel valore, quindi fanno anche così qui. Così ti fa vedere, vedete, sono lì, tra l'altro a faccia scoperta, solo che loro, nessuno di loro, il nostro Presidente della Repubblica ha dato solidarietà ai poliziotti contro di noi. È una pubblica, no? Il Presidente della Repubblica è napoletano, il capo dello Stato. Ha dato solidarietà ai poliziotti contro di noi. Lì si vede, cioè se volessero capire chi è, noi siamo tutti denunciati, ma questi qui non. Sì, sì, che se può identificare con la foto schiena, sì, no. Non va nulla. Ecco, vedete quel bastone, proprio. Ecco, guardate, il bastone è persino sporco di sangue perché l'hanno usato. Sì, che già sta avanzato del bastone. Lì è un tatuaggio del poliziotto. Che ha una frase di San Paolo che dice: ho condotto la mia buona battaglia e torno sicuro. Come cominciava? Ho condotto la mia buona battaglia e torno sicuro. E ho vinto una buona battaglia e la volevo sicuro. Meno male. Todavía estamos en el mismo día. Ecco, lì ci accusano di aver tirato le pietre, a parte il fatto che se qualche pietra è stata tirata è dopo che loro avevano combinato, guardate sì, che sì, e a parte che ha occurrito il tirare pietra sta occurrendo después de, dopo che le hanno combinate di tutti i colori, però sono loro che tirano le pietre. Vedete lì? Okay, anche se non è lo stesso, ma non è divertente, ma sembrava quasi. No. Beh, Mannarello da porra. Guardate lì, lì c'è il bastone del piccone, cioè loro usano bastoni dei picconi. Tipo come un piccone, no? Perché si deve fumare. Vedete? Quelle sono le loro armi di ordinanza. Ecco. E questo qui noi l'abbiamo usato, abbiamo fatto una conferenza stampa per raccontare, no, che noi siamo accusati di attaccare le forze della polizia, ma noi ci ricordiamo semplicemente, chi attacca e attacca in quel modo lì sono loro, però sono impuniti, fanno tutto quello che vogliono. Se nessuno ha sido lastimato. E perché fanno questo? Fanno questo per spaventare le persone, perché le persone non vengano più alla lotta, invece di spaventarle le fanno incazzare. E sempre per mettere miedo alla gente che non vogliono alla lucha, però lo sta ocurriendo che sempre se stanno cabreando delle masse, volevo vedere se c'era ancora quello, provo un po' a spostare leggermente, devo farvi vedere la parola di chiamo, prova contro i polizia e servizio pubblico, non ti ricordo come battaglia contro lo sbombe, quello l'abbiamo già visto, scontri in ottavo polizia, ecco quello lì, scontri in ottavo polizia e rompe, quello ci piace, quello lì. Quello lì, quello, ecco. Allora, lì è la continuazione, ecco, di quello che abbiamo visto prima, no? Se la prima, ecco, il video. Il video arrivava fino a un certo punto, lì è la continuazione. Vedete come le forze di polizia sono infinite e la gente viene bagnata e poi guardate, guardate. Lì siamo noi che passiamo, guardate le manganellate. Guardate l'anziano l'hanno coperto di botte, quel signore anziano, sì, e lì, ecco, e poi noi siamo buttati per terra, si vede anche la mia testa che si porta, siamo buttati per terra, poi, ecco, e lì cominciano la caccia all'uomo, vedete che scendono dall'autostrada, cominciano la caccia all'uomo per il paese. E se vanno a mettere a buscare gente dentro il paese. Seguono la spingono verso il paese. E poi vedrete che cosa fanno. Ecco lì, guardate come la gente scappa. E loro corrono dietro e vanno avanti. Vedrete, adesso si intruppano veramente. Ecco lì, adesso loro arrivano. Ecco lì arrivano un bar. Se alzi, sentite come grida. Ragazzi! Ecco, ma avete potuto questo video, però, che non si vedeva soltanto alla fine. Si è solo visto un momento. Sì, un pochettino che si vedeva la segnalata sì, che traeva sì, l'uomo negli che la portavano via. E queste sono Allora, e la storia, ce ne sarebbero tante cose da far vedere. Sì, no? Sì, c'era, c'è per esempio anche il Capodanno VIII, il sito strategico, assalto della polizia al bar, c'era anche quello sopra, che forse si vedeva un po' di più, ma comunque va bene. Si è visto, si sono viste varie cose. Il cantiere fantasma di Chiomonte, se volete vedere qualche immagine del cantiere, quello in basso. Sì, sì, querete vedere un po' della obra, di come è la obra dell'età? Eccoli, per esempio. Che in realtà non è stato cominciato molto. Oggi vogliamo la obra. Battivo era da qui il 3 luglio, avrebbe voluto visitare, ma è stato accolto dai lacrimogeni. Bene, oggi abbiamo organizzato, grazie alla sua volontà politica, di una visita complessa, la prima di una serie di visite che vuole in qualche maniera fare pressione su questo fortino e sulle autorità governative che lo hanno voluto, per chiarire bene fino in fondo quali sono le sue caratteristiche. Vale, direi visitarlo varie volte per poter vedere come si progetta. Perché noi non ci lasciano andare, hanno fatto andare alcuni parlamentari. Ci sarà anche la volontà. Poi si chiudono il cancello. Io so che la delegazione è composta esattamente dai nomi che hanno fatto. No. Questa è la lettera di richiesta che è un membro del Parlamento. Stiamo anche noi del Fatto Quotidiano. Ebbene, questa è una cosa che noi assumeremo, arriverà l'avvocato, cercheremo di capire meglio la cosa. Il capitano Mattan della compagnia di Susa ha dichiarato che lui ha questi ordini che arrivano dall'alto e abbiamo sfruttato in questo momento. Questa carta è stata è la stessa carta presa dalla sintesi non tecnica, che è un documento ufficiale dello studio di impatto ambientale. Queste due righe sono il viadotto della vediamo. Sì, perché vediamo qualche immagine. Perché qui c'è il foro deve venire in questa zona qua. Ecco lì ti fa vedere la zona dove dovrebbe esserci, poi dove dovrebbero fare, no? Sì, la zona è per fare. Ecco lì c'è il parlamentare europeo che va su. Però il problema vero è che loro, allora, vedete, guardate come lì naturalmente è tutto chiuso. La gente comune non può assolutamente andare su. Sì, no, come anche i proprietari delle vigne, adesso possono andare loro, ma non i lavoranti. Ah, potete dire solo la proprietaria, però non la persona che lavora. Non le persone che lavorano. Per cui lì c'era una coltivazione di viti, una coltivazione di lavanda. Quello che esa varietà di lavanda. Hanno dovuto abbandonare tutto perché in realtà non si può più lavorare. Loro dicono che il TAV porta lavoro, in realtà hanno distrutto tutto il lavoro che già esisteva. Sì, dicono che avrebbero sbagliato il mondo del lavoro del TAV, però onestamente è scritto. Perché c'erano. E chi tanto lavoro che già esisteva prima. C'erano almeno 40 famiglie che vivevano delle vigne, della lavanda, eccetera, no? In quella zona. Sì, questo della lavanda e vino se dare. Sopra, vicino al museo, c'era anche la cantina sociale dove la gente andava a comprare il vino. Adesso è tutto chiuso e non c'è più. In cerca della restare al museo también tenía una especie di bodega sociale in la che si vendeva vino di ese. E naturalmente non essendoci l'accesso la gente non può più andare, per cui l'attività praticamente è morta. Sì, non è il mio amore che si è fermato all'accesso. E poi noi dalla parte dove avete visto la nostra baita avevamo rimesso in piedi un castagneto, cioè la situazione di castagne. Ha voluto ponere in funzionamento l'approvvigionare una castagnera. Adesso quegli alberi li hanno sradicati completamente, erano alberi di 200-250 anni. E questi alberi di 200-250 anni che stavano otra vez in esplotazione, los han desarraigado, los han arrancado. Li hanno tirati fuori con le radici, no? Siamo arrivati là, avevano fatto un macello, un disastro. E tutto no perché, allora, l'importante è capire che hanno delimitato con le reti il territorio, l'hanno sovrastato con filo spinato di fabbricazione israeliana. Perché o sea, l'han quitato eso, pero la razón era porque estaban haciendo todo el límite de la zona con vallas sobre las que ponen alambre de espino de fabricación israelí. E l'hanno ammesso perché non potessimo scavalcare le reti, perché noi quelle reti continuiamo ad andare a tagliarle, andiamo, ci siamo comprate le cesoie, sì, e andiamo a tagliarle le reti. Andiamo a tagliare le reti anche perché quelle reti sono diventate una barriera invalicabile per gli animali del bosco. E también es una barriera che non può passare totalmente opaca per loro. Perché gli animali scendevano sotto. C'è il torrente, c'è l'acqua da bere. Sì, perché non dello fai un arroggio anche per vedere tutta la fauna. Per cui gli animali scendevano dalla zona archeologica e venivano a bere lì sotto. Adesso non possono più passare. E gli animali non è che ritrovano immediatamente la strada per l'acqua. E se dentro tutta una zona però la vanno a incontrare immediatamente. Passeranno generazioni e generazioni. Quindi c'è proprio anche una moria degli animali. Non solo per questo, ma perché per esempio i cervi, ci sono cervi, vanno a impigliarsi con le corna nelle reti. Sì, ma sta me lo curo che si lanciano cervosi in tutto il sistema di passare, e quindi fanno anche una brutta fine. Difatti noi continuiamo a girare anche per vedere se ci sono animali ingabbiati. Sì, che también dan vueltas in tutta la cosa, non solo per vigilarsi, ma anche per vigilarsi se hay animales atrapados. L'altro grosso problema è che l'avvelenamento dei lacrimogeni, fatto dai lacrimogeni, che vengono lanciati a migliaia, non 10-20, migliaia e migliaia ne lanciano sopra di noi, hanno avvelenato il terreno, per cui anche tutti i piccoli animali, soprattutto gli insetti, le formiche ruffe che servivano contro la processionaria dei pini, sí, que han eliminado, o sea, han contaminado el terreno y en gran medida sobre todo ha afectado a los insectos, incluyendo un tipo de hormigas que eliminaba la procesionaria, que es una plaga que hay en los pinos. No sé si la habéis visto, está con un hormigón blanco. Quindi prima di desertificare il terreno col cemento lo stanno facendo col veleno. Sí, y entonces están haciendo la desertificación previa al cemento con el lacrimógeno. No? Quindi avvelenano le acque, è un vero macello. Sì, perché questa è la realtà. Allora è interessante capire perché è tutto questo, no? Come mai questa repressione, che non è cosa da poco. E beh, tutto questo perché dietro a questa grande mala opera, come dietro comunque a tutte le grandi opere, dopo di tempo a questa parte, stanno degli enormi sporchi interessi del capitale, sicuramente. Sí, porque detrás de esta gran ópera, de esta gran obra, igual que de todas las demás grandes, lo que hay son sí, una serie de intereses particulares muy grandes. Certo, anche perché loro tirano fuori che quest'opera sarebbe utile per creare maggior mobilità da lontano a lontano. Sí, pero también dicen que sería una oportunidad de aumentar la movilità a grandi distanze. E per togliere comunque trasporto merci da strada a rotaia, non per portare sì, si si quita la parte del trasporto dei camiones, passarlo al sistema ferroviario. Allora, questa è un'enorme menzogna. Questa è una mentira grandissima. Enorme menzogna perché noi, per esempio, in Valle di Susa abbiamo già una ferrovia internazionale. Sì, perché già abbiamo una linea ferroviaria internazionale che è in Valle di Susa. Su cui passano tre coppie di TGV andate e ritorno al giorno. Che passano dos parejas di ida e vuelta del treno a velocità francese da Calia. Allora, però questi treni sono sempre vuoti perché in realtà costano tanto e la gente chiaramente non li usa. Sì, ma la rete sta vacia perché costa tantissimo che nadie lo usa. In compenso tagliano invece i treni locali che potrebbero servire alle persone per andare a lavorare. E per compensarlo la rete schitta lo regionale per le associazioni. Ecco, che sono poi quelli che veramente tolgono il traffico dalla strada e lo portano alla rotaia. Questo veramente mi dà il traffico della autopista. Non è vero che vogliono portare comunque traffico dalla strada alla rotaia, perché parallelamente in Valle di Susa, ma dovunque hanno fatto l'alta velocità, stanno potenziando, aumentando le corsie anche dell'autostrada. Sì, y además se ve que no es cierto porque están al mismo tiempo que haciendo que viene a acelerar, que están aumentando el número de carriles de la autopista. Quindi, cioè, è davvero il loro progetto è quello del corridoio dove tutto passa e niente rimane, no? Corridoio, il corridoio. Sí, van a hacer un pasillo porque todo pasa y nada se queda, todo pasa de lado. Allora loro ci guadagnano dalla stessa infrastruttura, la costruzione dell'infrastruttura. Che viene costruita con dei sistemi mafiosi. Con delle imprese che sono direttamente legate ai grandi partiti politici che siedono in Parlamento. Che stanno al mismo tempo unidas allo grande partito del Parlamento. Del Parlamento, perché soltanto questo spiega che tutto l'arco parlamentare, quindi dal PD che è centro-sinistra, dal centro-sinistra al centro-destra, sono tutti favorevoli all'opera. Tutti stanno a favore. Mentre tutta la gente è contraria in realtà, perché contro quegli interessi che sono trasversali davvero. Sì, contro questi interessi trasversali. È nata la lotta popolare. La lotta popolare. Sì, la lotta. Lotta popolare che cosa vuol dire? Che è fatta di persone, l'abbiamo già visto anche, l'abbiamo già detto prima, di tutte le età ma anche delle storie più diverse, no? E per esempio c'è gente che fa anche riferimento a questi partiti del centro-sinistra, alcuni sì, sindaci. Che hay algunas personas que son de esos partidos. Ce ne sono anche, no? Sì, algunos alcaldes. Ce ne sono anche alcuni sindaci anche della valle. Che erano stati eletti in liste del PD, dei partiti del centro-sinistra, sì, lista. Che hanno detto no a quest'opera per rispetto della popolazione che li ha eletti. Sì, dopo come hanno visto che tutti quelli che avevano votato stavano in contra, hanno acabato dicendo che no. Bene, i loro partiti li hanno buttati fuori. Quindi questo è il chiaro segno di dove stanno gli interessi. Allora, la mafia non è solo il piccolo mafioso che di solito veniva collocato al sud, ormai è profondamente innestata nel cuore dello Stato, no? Ma è chiarissimo. Sì, che non hay que pensar en la mafia come un mafioso y además solo nel sud d'Italia, sino está dentro del todo del Stato. Cioè, è questo, cioè è l'occupazione della cosa pubblica da parte di questi grandi interessi. Sì, è il processo che è. La toma di controllo di tutte le questioni statali. E noi ne siamo anche, abbiamo la prova immediata nella nostra lotta che la situazione è questa. Perché per esempio già nel 2005, quando avevano cominciato a mettere in piedi il cantiere che noi l'8 di dicembre, il 6 di dicembre del 2005, erano venuti a sgombrare, anche loro avevamo fatto un presidio, avevamo un campeggio, eravamo rimasti un mese lì nella zona, sono venuti in forza a sgombrare in piena notte il campeggio, hanno picchiato la gente, hanno distrutto le tende. Già nel 2005, l'8 ottobre, no? Allora, il 6 di dicembre del 2005 erano venuti a sgombrare il nostro campeggio dove dovevano iniziare il primo cantiere. Ecco, perché sono 23 anni che noi questa lotta la portiamo avanti. Nel 2005 sembrava il momento in cui volevano iniziare. Allora, noi avevamo occupato quei terreni, loro il 6 di dicembre sono venuti, hanno spaccato le tende, hanno picchiato le persone. E hanno messo le reti intorno al cantiere. E la gente l'hanno spinta via. Però questa situazione è durata due giorni, perché l'8 di dicembre siamo tornati 60.000 e le reti sono andate in pezzi, per cui abbiamo occupato. Ce lo siamo ripreso e lì l'opera non l'hanno più fatta. Hanno poi fatto studi su studi e adesso l'hanno spostata in alto a Piemonte. E per questo non hanno potuto fare lì e hanno iniziato a fare studi e hanno visto che tenia che andassero a fare molto più arriva. Ecco, quindi dal 2005 adesso non avevano più tentato di fare niente. Hanno cambiato i progetti spostando soltanto più in alto quello che volevano costruire più in basso. Bene. Per questa città non era molto a fare in ningún momento un accesso cambiato. Ecco, in tutto quel tempo in mezzo, quindi dal 2005 adesso, hanno tentato di piegare la gente coi soldi. E hanno intentato anche mettere dinero per che la gente... Allora, con le compensazioni, la promessa di compensazioni. Hanno fatto tavoli d'accordo, non più in valle, ma a Roma. E hanno fatto messa di negoziazione in Roma, o sea, non nel valle, sino in Roma. Dove la gente non c'era e quindi non poteva controllare i sindaci o comunque chi andava a rappresentarli. Sì, e la che arrivava al rappresentante, sento che la gente non voleva controllare, che erano le cose. E poi hanno promesso alla valle il 5% della cifra complessiva se lasciavamo passare l'alta velocità. Sì, le hanno promesso il 5% di tutta la cifra del dinero se dejavamo anche passare a valle del TAP. Naturalmente non soldi dati alle persone, ma dati ai costruttori che avrebbero dovuto cementificare la zona con tutta una serie di altre grandi opere. Sì, però no, claro, la gente sin a los constructores que hubieran hecho pues un cementificato, no? Quindi sono altre grandi opere, comunque la gente non c'è stata a questo gioco, non ha accettato le compensazioni, perché la nostra lotta ha anche fatto crescere consapevolezza tra le persone. Sì, però la gente non è entrata nel gioco perché al fine del gioco ha creato un grande coscienza. Per esempio, che il denaro non paga la salute. Sì, bueno, stavo dicendo io, no? Il denaro non paga la salute. Aspetta una cosa, Andretta, perché ci sono frasi a volte che non faccio la traduzione, perché si capisce benissimo. Il denaro non paga la qualità della vita. Il lavoro di per sé non è un bene comune. È il lavoro che non faccia ammalare, che sì, non distrugga la casa in cui vive, che può essere utile. Sì, che il lavoro non è sempre un bene di utilità pubblica, sino che avete che ritirare a chi che distrugge la salute. E poi comunque, anche se non fosse un grande affare la costruzione in sé, e avesse una minima logica, quella del corridoio di traffico, incluso se realmente tuviera una logica detrás de que la falta llevarse il traffico, sarebbe una logica non accettabile. Non sarebbe accettabile questa logica. Perché il mondo diviso in corridoi dove passano i grandi interessi, dove passa la distruzione e dove passa davvero dove passano le merci, sì, impoverendo i terreni, i luoghi dove la gente vive. Questi corridoi sono corridoi di morte, non corridoi di vita. Sì, che sono punti dove passano per quelli che non hai realmente vita e lo passano mercanzia, passano dinero. Adesso poi non c'è neanche più la giustificazione delle merci che passano, perché sulla stessa linea storica che già abbiamo passano soltanto il 10% di merci rispetto al totale che passavano vent'anni fa. Ora già non è stretto tanto, sino che ora solo passano il 10% delle mercanzie che stanno passando hace 20 anni. Hace 20 anni. Sì. O sea, che era quando l'avevano fatto. Sì, quando c'era. E poi allora poi tornerò indietro e racconterò come è nata questa lotta, come... Ma ve lo racconterò dopo. Volevo continuare sulla questione del modello di sviluppo. Allora, questa lotta ha fatto mettere in discussione il modello di sviluppo stesso, che è quello dell'Europa di Maastricht, cioè quella del mercato. Sì, questa ha posto in questione il modello di sviluppo dell'Europa di Maastricht. Che è la logica del mercato, no? dove tutto viene prodotto lontano, nelle fabbriche degli animali, perché noi già sull'autostrada vediamo passare questi camion con questi animali vivi che sono una sofferenza infinita, quando potrebbero vivere sul luogo, come sempre hanno fatto, no? Sì, che sta usando sempre la produzione a larga distanza, mentre per esempio delle fabbriche di animali che io lo ven passare per un rato dal camionesco. E così anche i generi alimentari, quelli più generali, le verdure, tutto quanto, no? Allora, il problema è quello che bisogna opporsi al modello di sviluppo della monocultura, che è quello che il capitale ha allargato nel mondo per poter occupare i territori e sottrarli alle popolazioni. Allora, la monocultura vuol dire che... era soltanto che non potevo ricordare tutto. Sì. Allora, questo modello è quello della produzione e la monocultura. La produzione del monocultivo? Che serve ai grandi produttori, che sono poi le multinazionali. Pensate, no? Fatta la grande produttore sono i multinazionali. Ma sottraggono la terra alle popolazioni locali. Para conseguire la popolazione locale. Dove le popolazioni locali dovrebbero invece applicare un'agricoltura di sussistenza che serve per vivere. E invece applicare l'agricoltura di sussistenza alla popolazione locale. Ecco, allora, è il modello della delocalizzazione, no? Del lavoro. Che riguarda le fabbriche, riguarda la tecnologia. Il modello della deslocalizzazione. La delocalizzazione. Allora, questi grandi corridoi di traffico, anche se servissero a qualcosa, cosa che non è, servono a qualcosa, servono ai grandi interessi di chi li costruisce. Se servirà un'altra cosa a parte la questione. Ma se anche dovessero servire a quel modello di vita e di sviluppo, è un modello di vita e di sviluppo che non è accettabile. Sì. Perché è il modello di sviluppo del produci, consuma, crepa. No? Sì, perché se il modello di sviluppo del produce, consuma, muore. Consuma, crepa, per cui tu sei due volte sfruttato, nella fabbrica che ti sfrutta per produrre e nel supermercato che ti sfrutta perché ti costringe a comprare quello che non ti servirebbe, ma tu lo fai perché c'è la pubblicità e c'è tutto il resto in mezzo. Come anche il principio stesso dell'alta che è il modello della doble esplotazione come produttore e anche come consumatore con presunzione. Per cui sei due volte sfruttato, no? Sei due volte sfruttato e ti viene anche sottratto il tempo, perché quello dell'alta velocità è il modello del tempo denaro, no? Che tu devi vivere sempre più in fretta per produrre e consumare, consumare e produrre. Sì, perché anche se más rápido te requiere mucho más tiempo, dinero, no mucho más tiempo de trabajo para poder pagar eso. E non hai tempo comunque di coltivare la tua vita, di coltivare le relazioni. Basta pensare a questi viaggi che ti portano sempre più lontano perché il territorio in cui vivi è stato distrutto. Sì, io basta pensare a questo tipo di viaggi che riesci a fare, ma non è importante, non è vero, cioè il principio stesso dell'alta velocità non è il principio di quello che sarebbe il viaggio umano, perché andare in fretta vuol dire non vedere niente, neanche sì, da questo punto di vista. Vuol dire passare sulla vita senza fermarti a guardare intorno a te. Allora ci sono altri rapporti umani da coltivare. Sì, però io ho tipo di relazione umana para dedicarle tempo a parte di... Certo, e quindi è proprio anche questo modello di vita, oltre che questo modello di sviluppo, sì, che è funzionale al sistema. Questo modello di vita dentro il sistema. E certo, è funzionale al sistema, per cui non sei tu a decidere i tempi della tua vita, ma invece il capitale che ti usa e ti getterà quando non serve più. Il caso che sia il capitale che ti ha perso il tempo di vita, perché sì, quando ti serve. Del resto, il discorso dell'alta velocità in Francia è già così, sembra che tutti i francesi siano favorevoli all'alta velocità. Non è vero, no. È che in Francia l'alta velocità è iniziata molto tempo fa. Perché l'hanno pensato che non ci sono del master. Hanno costruito le linee a lunga distanza e hanno sradicato, tolto dal terreno le linee che permettevano di viaggiare in ferrovia e mettere a contatto territori molto più vicini. Perché hanno già fatto molti anni antes e poner la linea da larga distanza, di eliminare tutte le linee alternative che arrivano a linea di corta distanza. Allora, anche in Italia linee ad alta velocità sono già state costruite. Sì, in Valle di Susa, quella che doveva partire dalla Valle di Susa e arrivare a Trieste, non è ancora stata costruita perché l'abbiamo fermata. Ma sarebbe solo il segmento di un sistema. Sì, che lo che ha imparato è ese segmento, certo. Quello di Valle di Susa a Trieste, perché gli altri sì che stanno costruendo già. Allora, hanno già fatto invece il tratto Torino-Milano di alta velocità. Torino-Milano, certo. Alta velocità non vuol dire che c'è un treno che va un po' più forte sulla linea normale, è questo che bisogna capire. Costruiscono una linea a parte, quindi due linee. per esempio sulla linea normale in Italia esisteva già un treno che andava, che collegava le grandi città anche in tempo abbastanza breve, no? Sì, che ne aveva uno per usando la linea normale. Era il pendolino. Il pendolino era un treno che utilizzava la linea normale e che copriva in tempi assolutamente competitivi con l'alta velocità anche le grandi distanze. Il pendolino in Italia non è più prodotto, non c'è più. Già hanno fatto fabbricare tipo dei treni che usava la linea standard per... Però invece ecco, funziona perfettamente, per esempio, nell'Europa centrale. Nell'Europa centrale non si utilizza. Perché li hanno venduti, per esempio, alla Repubblica Ceca. Nella Repubblica Ceca, in Cecoslovacchia, funziona il pendolino. Ce l'ha raccontato un giornalista della radio pubblica ceca che è venuto da noi a vedere qual era il problema, no? Come era la cosa. Io credo che lo sapendo che ce l'ha raccontato un periodista che della Repubblica Ceca. Allora, è venuto e ha detto, da noi funzionano perfettamente. Da noi in Italia non funzionavano più perché? Perché bisognava costruire il resto, perché il resto faceva soldi al grande capitale. E il grande capitale era lo stesso che aveva già lucrato sulle autostrade. Sí, y porque necesitaban cambiarlo, por eso los han eliminado. Y era porque era una necesidad del gran capital que ya se había logrado primero con las autopistas y han necesitado hacer esto. Era, por ejemplo, la Fiat. La Fiat. Eran Lier y Leni, cioè queste grandi partecipate pubbliche che in realtà stavano privatizzando i servizi. No? E la Fiat invece era privata assolutamente. La Fiat era privata desde el principio, pero Leni también. Che sono ente privato e pubblico. Certo, la Fiat aveva avuto il compito di general contractor per tutte le linee ad alta velocità dell'Italia settentrionale. Vale, perché la Sassona la che si lleva tutti i contratti dell'Italia Norte è la Fiat, il contrattista. General contractor vuol dire che lei affidava le tratte a trattativa privata e non a trattativa pubblica. E quindi a chi voleva lei, cioè le sue stesse industrie che aveva riconvertito in grandi costruttori. Sì, l'aveva passata da sus industria. Quindi, cioè, c'è privata, però al suo proprio settore. Alle sue perché passa stessi per... settori, no? Perché al essere general contractor già non depende chi escoge del Stato, sino che passa a settore. Ecco, allora, proprio con questo principio hanno già costruito delle linee. Vi dicevo la Torino-Milano, ma esiste già anche, esiste la linea, quella che si chiama Freccia Rossa, da Torino a Roma. Torino a Roma. Allora, adesso per andare, che cosa è successo? Che da Torino a Roma si andava già perfettamente bene sulla linea normale. Adesso che cosa hanno fatto? Visto che la linea, la Freccia Rossa nessuno la prendeva perché costava troppo, quindi la linea fatta ad alta velocità non era assolutamente utilizzata perché il treno costava troppo, hanno tolto il treno che costava di meno e quindi costringono la gente che va a Roma ad usare la Freccia Rossa. Gli hanno quitato la competizione della Freccia Rossa. Capito? Quindi ti tolgono il servizio, per cui se tu vuoi andare o te ne vai in auto, ma se vuoi andare in treno devi prendere necessariamente l'alta velocità. E la differenza di prezzo non è piccola, perché se andare da Torino a Roma sulla linea tirrenica, che era poi quella che faceva Genova, faceva Pisa, costava andata e ritorno 80 euro. Lei della volta era che costava, no? Per questa linea della... Adesso andare con la Freccia Rossa da Torino a Roma costa 200 euro. 200 andata e ritorno, andata e ritorno, sì, l'hai portato. Quindi più del doppio costa. E il viaggio è, sembra assurdo, ma più lungo, perché se prima si faceva la linea di assurdo è il más largo, è più lunga. Adesso bisogna andare a Milano, poi si va a Bologna, poi si va a Firenze e poi si va a Roma. Quindi tu invece di fare la linea dritta, tu spezzi una linea, fai molti più chilometri tra l'altro. E questo è il modo per rendere indispensabile la cosiddetta alta velocità, cioè ti tagliano i servizi normali. In Italia è in piedi ormai da mesi e mesi una lotta, che è quella dei lavoratori dei wagon lit. E sì, cioè, que ahora ya llevan varios meses en lucha los trabajadores de las i treni notturni, perché i treni notturni sono stati aboliti, non ci sono più. Questi lavoratori erano 1000 lavoratori, 1000 che su tutte le linee italiane gestivano i treni notte. Sono stati licenziati in tronco. Sono stati licenziati in tronco e hanno occupato nelle grandi stazioni, parte delle grandi stazioni, ci sono a Torino, ci sono a Milano, ci sono a Roma. E hanno occupato parte, o sea, si hanno metido a occupare tutte le stazioni di Milano, Roma. Torino, Milano, Roma. Torino, Milano, Roma, purtroppo anche questa loro lotta, noi siamo andati a dare solidarietà come notavo, perché la loro lotta è come la nostra, sono anche loro contro l'alta velocità, perché per loro vuol dire lavoro sí, vero. Hanno ido a verlo, sí, para no sé, porque en el fondo tienen una lucha en común. Noi siamo andati a dare solidarietà, abbiamo anche contribuito, perché questi hanno anche famiglia. E nessuno si cura di loro, non li hanno neanche messi in casa integrazione. E non les ha puesto in casa. Nessun aiuto. Es un este, come si chiama in spagnolo? No tiene. Quando te echan di una regolazione di empleo e puoi cobrare del Estado. El fondo di compensazione. Ni siquiera les han dejado el fondo di compensazione. Sì, è quello che noi chiamiamo casa integrazione, per cui sono completamente sul lastrico. E nessuno si cura di loro, se non il nostro movimento sì, perché una caratteristica del nostro movimento è che fin da subito non ha mai portato avanti una lotta, diciamo, egoistica, come dire, non toccare il mio territorio, passate un po' più in là. Sì, che in un momento hanno detto la no, per questo valle no, per altro per l'altro. Allora, è certo, perché con l'andare del tempo, è stato chiaro che non potevi salvare te stesso se non salvavi sì, anche gli altri intorno a te. Al cabo del tempo ti sono dato conto che non era impossibile fare una salvazione. Ed è diventato chiaro che non potevi vincere la tua lotta contro la Torino-Lione, l'alta velocità in Valle di Susa, se non mettevi in discussione qualcosa che era più ampio della lotta contro il treno alto veloce, ma era il modello di sviluppo, no? Quindi è nata una nuova solidarietà. Allora, ancora due parole, facciamo una cosa. Sì. Quando non sto molto sicuro che stai intendendo o no, capite? Sì. Perché è che tampoco non lo voglio stare portando. Volete fare delle domande magari, così almeno non parlo solo io da una parte. Non so, ci sono ancora due cose su cui vorrei fermarmi, però poi si può discutere perché i problemi sono tanti. E cioè come è nata la nostra lotta e che cosa ha comportato dal punto di vista della socialità della valle questa lotta. Vale, la cosa che volevo contare prima sono solo di come nació e di come ha cambiato le relazioni sociali questo anno. Allora, è nata alla fine degli anni Ottanta, parallelamente alla lotta per la difesa della ferrovia come servizio pubblico. Che era nata unita alla lucha che aveva per la difesa, però dello che sarebbe la Renfe come servizio pubblico per tutti. Ecco, perché le ferrovie dello Stato avevano avviato un piano per la privatizzazione delle ferrovie. Perché stavano montando il piano per la privatizzazione della ferrovia statale, sì. Che si chiamava Piano Necci. Necci dal nome dell'estensore di questo progetto. Vale, che è il Piano Necci, però Necci se l'ha preso. Ecco, allora, il Piano Necci che cosa prevedeva? Esplicitamente, scritto sulla carta. Esplicita? Prevedeva la dismissione, cioè lasciar perdere, dare alle regioni se avevano i soldi per farle funzionare, di tutte quelle che erano le linee locali. Sì, lo che vanno a fare una trasferenza alla comunità autonoma? Sì. Però delle locali. Se avevano i soldi per mantenere. Però sì, se lo potevano permettere. Altrimenti il taglio delle linee locali. Sì, non lo portavano. Certo. Linee locali vuol dire quelle che mettevano in relazione i territori non solo all'interno di una regione. No? Sì, però non solo dentro di una comunità autonoma. Ma anche interregionali come, che funzionavano benissimo. Allora, questo avrebbe comportato il taglio di 11.000 km di rete ferrata italiana. Che raccolta 11.000 km della rete. Di rete ferrata. Contro, lo diceva il piano NECI, il potenziamento di 5.000 km compatibili con l'alta velocità. Vale, a cambio di, però venía nel plan, a cambio di fomentar 5.000 km, però lo di alta velocità. Di alta velocità. In più questo piano prevedeva la chiusura di tutte le officine ferroviarie pubbliche. E lo che supponeva anche il cierre di tutte le officine pubbliche le officine ferroviarie, e cioè quelle officine che facevano la revisione delle motrici, delle locomotive. Sì, quello che si occupavano della suonare del motore. Ecco, sì. E cioè che facevano le revisioni per un viaggio sicuro, sia per i lavoratori che per i passeggeri. Quindi sentite la revisione, non si occupava della sicurezza. Ecco, la revisione veniva fatta ogni 8 chilometri, ancora prima degli anni 90. Quindi la motrice viaggiava, mettiamo, per 100.000 km, poi veniva automaticamente revisionata. Teniva una revisione ovviamente. Allora, questo, per chi voleva privatizzare, era un costo inaccettabile. Sì, che non lo sta passando a parlare privatizzatore. Per cui hanno chiuso le officine ferroviarie e da quel momento in poi le motrici vengono revisionate solo quando si fermano. E ora già solo se fa una revisione quando si rompe e non si muove. Allora, capite che fa la differenza questo, perché vuol dire che da quel momento in poi viaggiare è diventato sempre più difficile. Sempre più difficile perché queste motrici non revisionate si rompono spesso e volentieri. Sì, perché ora non tenere l'unico revisione se non vengono per tre. Senza contare i posti di lavoro che si sono tagliati chiudendo le officine ferroviarie. A parte lo posto del lavoro della sua. Allora, questo ha comportato un viaggio peggiore, maggiori disagi per chi viaggiava, il taglio delle corse pendolari, cioè il viaggio che si fa quotidianamente per andare a scuola o andare a lavoro. Sì, per anche todos de Estraradio, centro Estraradio diario. La chiusura delle stazioni. La chiusura delle stazioni. Per cui sono venuti meno tutta una serie di servizi che loro ritenevano inutili, anzi costosi, che non potevano più essere coperti perché in quel momento viaggiare non era più un diritto di tutti, era un servizio a domanda individuale da pagare. Sí, lo han considerado que era una pérdida de dinero, porque era un servicio social, sino una cuestión que si te lo puedes permitir, lo pagas, y si no te lo puedes permitir, no te lo pagas. Perché da quel momento in poi, non essendo più servizio sociale, non si poteva andare in perdita. Y a partir de ese momento ya no. Cuando pierde la consideración de servicio social, de servicio de bien público, ya no existe la posibilidad de que entre en pérdida. E quindi o ci guadagni sopra o tagli, che è esattamente quello che non serve per i servizi sociali. E già tutte le linee che non tengono beneficio se te va. Allora, visto che la nostra valle aveva proprio a Bussoleno un polo ferroviario importante. E lì, giusto nel valle, in Bussoleno, che sono dei poli, tenevano un nudo importante, dove lavoravano 1.000 ferrovieri. Bene, adesso, attualmente, dopo il piano NECI, dopo la privatizzazione delle ferrovie, i ferrovieri sono una trentina. Quindi pensate quanti posti di lavoro in meno, no? Posti di lavoro che sono stati assorbiti perché magari li mandavano in pensionamento anticipato. Sì, una jubilazione anticipata. E non veniva fatto il turnover. E già non trovavano di massimo. Non veniva fatto il turnover, per cui c'è stato davvero un taglio di posti di lavoro infinito. Allora, noi a Bussoleno abbiamo deciso di metterci in lotta contro il taglio del servizio ferroviario pubblico e parallelamente contro l'alta velocità, perché era chiarissimo, no? Il piano NECE lo diceva che si tagliava da una parte per potenziare dall'altra. Sì, la ragione per la quale hanno solo dos puntos era perché nel proprio plan NECE stava junto, che la ragione del recortar era per potenziare l'altro, l'alta velocità. E quindi le prime lotte le abbiamo fatte proprio con i ferrovieri del polo ferroviario. Sì, con la prima luce l'hanno con la gente. Con i ferrovieri, no? Con la gente. Le ferrovieri. Il numero di persone non era enorme. insomma, eravamo in pochi. Voi pensate, la prima manifestazione che abbiamo fatto, eravamo andati con uno striscione fatto di cartone. Sì, che la prima manifestazione con pancartas de cartone, con una scritta sopra dove dicevamo no alla chiusura dell'officina ferroviaria, no al TGV, perché allora si chiamava ancora TGV. Sì, no alla chiusura del el tacco nel nome antico francese e no alla chiusura dell'officina ferroviaria. Perché eravamo andati in stazione a Bussoleno, perché passava per la prima volta sulla linea che già esiste il TGV. Questa linea passava il TGV, la linea che esiste, no? Passava il TGV per propaganda, no? Per far vedere com'era brillante questo treno e c'erano sopra tutte le autorità. Allora noi siamo andati con questo striscione, naturalmente è arrivata la polizia ferroviaria. Ci ha preso i documenti, ci ha sequestrato lo striscione, dopo che ci siamo pure opposti. Non potevamo far molto perché eravamo in cinque. Era una manifestazione di cinque persone, si chiamava la santità della pancarta, un po' di loro. Quindi diciamo che all'origine della lotta non eravamo in migliaia. Eravamo pochi, doveva esserci qualcuno di più, però c'era ancora una certa paura di rompere la legalità, di andare... Sì, avevamo un miedo Hanno preso i documenti, non hanno potuto cacciarci dalla ferrovia, perché noi avevamo preso un biglietto ferroviario. Ed eravamo passeggeri. Veniva il biglietto del treno, non le potevano cacciare del treno perché erano passati. Avevamo preso il biglietto per la stazione dopo, per cui non potendo cacciarci di lì, naturalmente ci hanno identificati, eccetera, eccetera. Cosa hanno fatto? Stava per passare l'altro treno. Per evitare anche soltanto la visione di questi cinque sulla banchina del treno, hanno infilato tra noi, tra la banchina dove noi eravamo e il binario su cui doveva passare il treno, hanno infilato un treno merci. Per cui questo è un treno mercanzias entre media dell'andén con il che va a passare il supertren e il per cui noi il treno che passava ad alta velocità non l'abbiamo visto perché c'era il treno merci tra noi e loro. Però siamo andati più avanti perché andava all'andata fino a Susa e doveva tornare. Siamo andati più avanti fuori dalla stazione e quindi ci siamo messi a gridare, però nessuno ci aveva sentito perché il rumore del treno era enorme. Quindi questo per dirvi che cosa? Che si può anche cominciare in pochi, ma se le ragioni sono giuste e se si trova il modo di far arrivare il messaggio alle persone, beh, si diventa tanti, perché adesso abbiamo manifestazioni di 60.000 persone. Que no, y todo esto al final, en resumen, para contaros que al fin y al cabo, incluso siendo muy poco desde el inicio, con unas razones adecuadas y sabiendo explicar a la gente, se puede llegar a eso, a ser miles de personas. Ecco, perché quello che noi abbiamo fatto è stata un'informazione a tappeto capillare. Abbiamo cominciato a far volantini. Sì, la carica ha sido dare la informazione a tutto il mondo, con panfletillos. E abbiamo cominciato ad allargare anche i punti di riferimento e lo facevamo con la gente che abitava in valle con noi, che ci conosceva anche, no? Che quindi con cui potevi parlare. Sì, si è posto anche a includere molto più gente del valle. E quindi dagli inizi degli anni 90 si è arrivati al 97, in cui già abbiamo cominciato a fare delle grosse manifestazioni. Grosse vuol poi dire 2.000 persone, non sì, voleva dire. Questa manifestazione del 2000, sono del 97. Allora, di che cosa parlavamo alla gente? Beh, anche dei pericoli che la costruzione di quest'opera avrebbe comportato al territorio, dove intanto volevano costruire un grande rilevato in mezzo alla valle, che è già una valle di tipo alluvionale. È come una specie di grande trincerone enorme, no? Al túnel sobre el valle, y es un valle de estos en forma de V, ecco, ¿vale? Por lo cual hay peligro de caída, de barro y demás, sí. ¿No? Y entonces eso lo han empezado a incluir dentro de la información para... Per cui sarebbe andato ad occupare ancora una parte che era coltivata della valle, quindi servizi agricoli molto in meno, no? Sì, también si comió una parte del terreno di coltivo. E si sarebbe piazzato di fianco all'autostrada che già c'è e non eravamo riusciti a fermare, perché abbiamo già... Allora, noi in Valle di Susa, la Valle di Susa nel punto più grande è di 1,5 km nel punto più largo. In 1,5 km ci sono già 2 strade statali, un'autostrada, il fiume, che è l'unica cosa naturale, e avrebbero voluto far passare quest'altra. Sì, perché devono mettere questo che tiene di anchura, 1,5 km, no? Para il rio, 2 nazionali, l'autopista e la seguente che viene. Allora che cosa hanno fatto? Hanno cambiato, perché qui poi i soldi cominciano anche a drenarli facendo i progetti. Nella medida también, incluso se hace la obra, el dinero se lo van cogiendo simplemente por hacer los proyectos. Perché già i progetti sono di per sé, i progetti bisogna fermarli, non bisogna lasciarli andare avanti. Loro hanno continuato a fare dei progetti. E allora quella che doveva essere una linea in mezzo alla valle è diventata, a parte il grande tunnel d'accesso dalla Francia all'Italia, è diventata una serie di tunnel che dovevano passare all'interno della montagna, no? Quindi hanno preparato un progetto. Hanno aggiunto un tunnel a parte del che tiene che aver imparato a passare. Con una, tra l'altro, treni ad alta velocità che passano in tunnel, 53 km quello dalla Francia, solo in territorio italiano, 75 comprendendo anche il territorio francese, più un lunghissimo tunnel di 60 km. Si deve fare un tunnel di 70, massimo 60. 60 km in valle. E cioè 60 km francese e 70 km in valle. Quindi, sì. E quindi questo che cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato il fatto che dalla montagna venivano tirati fuori, tra l'altro, materiali pericolosi. Ah, perché questo presupposto che all'avere la montagna una serie di materiali pericolosi. E quindi come l'amianto e l'uranio. Perché la parte che vogliono fare, che vorrebbero iniziare adesso, è in materiali d'uranio. Lì c'erano addirittura delle cave, delle miniere d'uranio. Sì, perché aveva incluso una mina d'uranio. Allora la gente, certo, ha cominciato a capire che cosa voleva dire tirare fuori questo materiale. Questo materiale che poi avrebbe l'amianto, le fibre d'amianto, noi in Italia siamo al corrente, le fibre d'amianto... Anche qui sono assolutamente vietate, noi abbiamo per anni e anni. Ecco. Allora, la gente ha cominciato anche a temere per la sua salute. E secondo la gente ha metà per sempre poi affettare. Poi l'altro grave problema, il taglio delle falde acquifere. Perché che abbassano ancora il taglio, hanno toccato la falda, los acquiferos. E questa questione delle falde acquifere non è soltanto una cosa immaginata, perché... Nella tratta ad alta velocità che hanno fatto da Bologna a Firenze, cioè nella zona del Mugello, hanno tagliato tutte le falde acquifere. La hanno toccato tutte, cioè che non è che se lo stia immaginando che potrebbe occorrere, se non l'hanno visto nell'altro tramo della prima opera, come ho concluso. Il che vuol dire che senza acqua non si vive. Quindi la gente ha cominciato a capire, anche dal punto di vista della propria esistenza, che cosa avrebbe comportato. E poi questo prezzo, questo costo enorme che veniva a incidere su quelli che erano poi le utilità pubbliche, la scuola, la sanità. E lo va a más, cioè come questo aggiunge un montone di costi extras a altre questioni come sanità, educazione. Certo, la sanità, la scuola, no? La scuola, perché stanno privatizzando tutto, poi Italia lo sapete anche voi. In Spagna mi sembra che la situazione sia un po' come quella italiana, i governi delle banche sono uguali dappertutto. Quindi... Allora, questi governi delle banche che tagliano tutto, la vita minima, ma potenziano invece e rimpolpano le cifre per la costruzione della Torino-Lione e delle altre linee ad alta velocità. Sì, governo italiano e governi europei. Sì, che sono governi italiani e europei che stanno... facendo tutto tipo di recorti per la vita simple, per la vita comune, no? Sì, anche per la potenza, questo altro tipo di metodo che vuoi. Sì, veramente qualcuno che ha deciso di non di uscire, di non aderire più a questa cosa c'è, ed è il governo portoghese, il Portogallo. E alcuni che si sono desmarcato, che sono il governo portoghese. Governo del Portogallo, perché in realtà la nostra linea Torino-Lyon si innestava all'interno di quello che chiamavano il Corridoio 5. Sì, perché questo era in realtà solo una parte della gran linea Corridoio 5, che andava da Lisbona alla Spagna, di Lisboa a Madrid, alla Spagna, alla Francia, all'Italia, passando dalla Valle di Susa, e doveva andare, secondo questi progetti stratosferici, a Kiev. Ecco, noi abbiamo telefonato a Kiev, a suo tempo, e certo abbiamo chiesto al sindaco, ma voi che ne sapete? Oltretutto la zona di Kiev era già martoriata. La alcalde di Kiev, la abbiamo detto, cosa ne sapete? Lui è caduto dalle nuvole, naturalmente, no? È caduto dalle nuvole e dice, ma mi vogliono fare ricostruire le ferrovie locali? Sì, mi servirebbe. Dico, no, non è... Non sono le ferrovie locali. Lui non sapeva di chi va il tema, pensava che era per costruire tutta la via scambiata nella zona. E dice, ma noi cosa ce ne frega di chi viene da Lisbona quando non abbiamo le linee per far viaggiare la gente sul nostro territorio? Abbiamo bisogno di ben altro. Sì, che pare che tra la gente di Lisbona giusto quando non funziona la spazio internazionale sul. Per cui sta questione del Corridoio 5, beh, comincia anche a far acqua da tutte le parti, perché in realtà i soldi non ci sono, sono sì, pochi. Sì, non sta il dinero per fare questo Corridoio 5. Sicuramente loro, come già hanno fatto, lo Stato italiano, come già ha fatto per le tratte costruite, si rifà le banche i soldi te le danno, perché non è vero che sono in crisi le banche. Il governo europeo i soldi alle banche le dà, non le dà le popolazioni, non le dà, ma le banche gliele danno i soldi. Sì, che probabilmente tiene che irsi a ricostruire la finanziazione dei banchi. Allora, che succede? Le banche imprestano i soldi allo Stato, e poi però lo Stato, che siamo noi, perché lo Stato non sono poi quelli che l'opera la vogliono, che sono poi i cittadini, che è la gente comune, devono pagare gli interessi a queste banche. Che bueno, non so se la stessa idea, no? Perché eso, no? Es, al final, che lo che stanno facendo è pedire alla banca per che lo ofrezca a noi, lo hagamos, e al final. Il fatto è che noi dobbiamo pagare gli interessi alle banche. E gli interessi alle banche che l'Italia sta già pagando, che i cittadini italiani stanno pagando, corrispondono a intere finanziarie. Vale, si los intereses totales de Italia son come finanziario, la finanziaria, cioè il bilancio dello Stato. Sì, tutto lo che sale al finale dello Stato. Allora, per l'80% sono gli interessi che dobbiamo alle banche per l'alta velocità già costruita. Tanto per capire, capito? L'80%. Sì, è l'80% solo los intereses, non la deuda del todo che. Allora, quando la gente ha capito tutto questo, e anche i sindaci all'inizio erano un po' così restii, però siamo andati, li abbiamo pungolati, perché sì, la gente andava in comune e diceva, non fate come con l'autostrada che l'avete lasciata costruire e poi tutto è morto qui in realtà, perché il lavoro è andato via e tutto il resto. E le hanno detto che andavano come con l'autopista che si tirano antes, che al final si è dato il lavoro che... In poche parole abbiamo cominciato a fare delle manifestazioni, e quando sono arrivati nel 95, 96, 97 per cominciare i primi sondaggi, che voleva dire sì, bucare... Sì, quando per la prima scatta geologica si è rimasta nel 95. Noi l'abbiamo fatto sapere, e a un certo punto quei sondaggi sono stati fermati. Il desamparato è la... Nel 95-96. Allora, quando il potere, i grandi interessi, quello che noi chiamiamo partito trasversale degli affari... Quando il partito trasversale degli negozi, è come si riferisce a tutto l'arco parlamentario... Esattamente. Ha capito che non riusciva a farcela, che cosa ha fatto? Ha intendito che non potevano farlo così. Ha cominciato a voler dividere tra i buoni e i cattivi, ed è successa una cosa folle che saprete tutti quanti. Sì. E hanno iniziato con la strategia di dividere tra buoni e malos. Allora, sono stati fatti dei falsi, perché lì erano falsi, perché ci si sono messi dentro i servizi segreti. Hanno detto, utilizzando i servizi segreti, hanno detto falsos... Attentati. Falsos attentati. Hanno tirato fuori volantini fatti da loro, dei cosiddetti lupi grigi. Gli han tirato de los lobos grises. I lupi grigi non c'entravano niente, perché i lupi grigi erano tutt'altra cosa, turca, eccetera, eccetera. E hanno tirato dentro tre compagni, uno della valle, che era Silvano Pellissero, e due compagni, una compagna e un compagno, che erano Sole e Baleno. Allora, perché tre? Questa storia sono andati in galera. Altro che, Sole e Baleno sono morti in galera. Sono morti in galera. Tutti e tre? No? Silvano adesso è in Svizzera, è andato via. Tra l'altro poi il processo è andato avanti e li hanno scagionati tutti e tre. Peccato che uno si era già fatto anni e anni e gli altri due ragazzi erano morti. E adesso come è finito? Ma è che hanno usato la sì, uno si era scappato, dos amores. Si sono suicidati. Il primo a suicidarsi nel 99, nel 98 è stato Baleno in carcere. Ma perché? Perché gli hanno fatto credere, hanno detto adesso per te è finita. Oltretutto è stata un'opera veramente schifosa, portata avanti dagli stessi giudici che adesso stanno mettendo in carcere i nostri compagni di nuovo, perché la storia si ripete. Perché tre? Tra l'altro Sole è arrivata molto dopo di quello che era successo. L'ha tirata dentro perché se non erano almeno tre non potevano dargli associazione. Claro, tenían que pillar a tres para fare associazione con intenzione. A fini sovversivi. Come banda armata. A fini di terrorismo, esattamente. Per cui vedersi cadere addosso una montagna come quella, evidentemente è difficile da sostenere, no? Sì, per questo sono perché non potevo aguantare tutto lo che le veniva. Poi la cosa si è sciolta nel nulla, peccato che loro due erano già morti. Al final già le hanno assuelto, però già loro stavano assieme a scuola. Ecco, diciamo che quella prima cosa, in valle non era stata capita bene. Cioè la gente non era ancora così apertamente. Abbiamo intendito molto bene nel valle. Tutto esattamente, e quindi era il 98-99 e ci è voluto il 2001 perché la gente tornasse a rimettersi in marcia. In Asia hasta l'anno 2001, quando si è visto era nel 37, sì, hasta quando ha voluto la gente in massa. E c'è stato un episodio centrale, quando siamo andati a Torino dalla Valle in 6.000, c'erano 6.000 persone, con i bambini, anche i bambini delle scuole, c'erano i nonni, i padri, eccetera, i palloncini colorati, perché il 29 di gennaio, il 29 di gennaio del 2001, a Torino, doveva esserci la firma d'accordo Italia-Francia per la linea Torino-Lione, cioè firmavano i protocolli. Allora noi siamo andati per dire no a questa firma e la gente che credeva che bene o male, essendo tutto tranquillo, insomma, andavano anche allegri, eccetera, non sarebbe successo niente, invece sono stati accolti alla stazione di Porta Nuova a Torino, quindi alla stazione ferroviaria, da truppe di agenti in assetto antisommossa. Quando hanno arrivato a Torino, che la maggior parte della gente va tranquillamente, che pensavano che non iba a passare nada, si è incontrato giusto al arrivare alla stazione con tutta la tropa di polizia, però già ha posto l'equipo al distrutto. Allora, ci hanno incolonnati in una strada. Siamo stati in plan in fila. C'erano tutti questi armati da una parte e dall'altra che ci portavano avanti. Rodeandoli per andare sotto. Ci hanno lasciati arrivare fino ad una piazza e lì ci hanno fermati e ha cominciato con una bella per cui anche quelli che dicevano ma noi siamo, rispettiamo la legalità, non facciamo niente di male, siamo venuti giù in treno, abbiamo il biglietto, abbiamo tutto, si sono resi conto che forse non era sufficiente rispettare la legalità, che esisteva una legalità che era la loro e una legittimità che era una cosa diversa. Sì, e adesso quando molta gente si è dato cuenta che il rispettare tutta la legge a lo mejor non era sufficiente e stavano da una parte una legalità e una legittimità. E da quel momento molti hanno capito che sì, esistevano i buoni e i cattivi, ma i buoni e i cattivi erano schierati in modo ben preciso. I cattivi erano quelli dei grandi interessi portati avanti con i manganelli, e i buoni erano tutti coloro che questi interessi li contrastavano. Sì, che sono andato a contare che sì che era vero che esistevano buoni e malos, però che erano fuori la televisione chiaramente entre malos de, que eran los que hacían esta gran obra y contratos y aquellos que se ponían en contra. Certamente. E quindi da allora sono stati contrastati tutti i sondaggi. C'è stato ancora un momento centrale che è stato il 2005, il 31 ottobre del 2005, quando il territorio intorno a dove volevano iniziare l'opera è stato militarizzato. Anche adesso il territorio è militarizzato, è zona militare. Certamente sì, è militarizzato. Militarizzato vuol dire che tu non puoi entrare se non sei residente in quel posto lì. Allora era Monpantero, era un piccolo paese dove dovevano passare per cominciare i lavori su in alto ancora una volta. Sì, che era il pulizito, poteva passare. Allora, la gente non poteva entrare e uscire senza esibire la carta d'identità. Chi non era residente, sì, la carta d'identità, e non poteva né entrare né uscire, chi era residente del posto. Doveva tutte le volte esibire la carta d'identità, come quando voleva uscire dal paese. Chi non era residente non aveva più accesso al paese. Cosa che quando la gente dice, no, parlando di residente, che si poteva essere. C'erano i posti di blocco e chi scendeva dalla montagna con la macchina veniva perquisita. Se li trovavano. Sempre si bajava la montagna, la stazione era registrata. Se gli trovavano gli strumenti per tagliare la legna, lo portavano in caserma. E le levavano al quartiere in caso di montare un accio o per la portata. Portavano in caserma, gli requisivano gli attrezzi da lavoro e lo denunciavano per rapporto di armi improprie. O come arma importata, con arma impropria. Allora lì. A un certo punto si è capito bene che anche chi non aveva voluto capire, anche quelli più tranquilli, sì, anche quelli che erano sicuri che la legge li avrebbe sempre difesi, hanno capito che forse non era così, che la legge difendeva i grandi interessi, no? E questo è stato fondamentale. Da allora la cosa è andata crescendo, la gente è anche riuscita a sconfiggere il senso dell'impotenza. Ya han conseguido al final la gente incluso un poco derrotar ese sentimiento de impotencia que tenían. Y ha decidido de meterse en pie y de contrastar. Y ya cuando se han decidido a levantarse y ponerse en soldado. Contrastarla con le manifestazioni, col taglio delle reti, con l'occupazione dei luoghi che loro vogliono occupare, anche con azioni legali, cioè con tutto quello che riguarda, per esempio, i ricorsi contro i loro progetti, tutto è stato accettato. Abbiamo messo in piedi un gruppo di avvocati, sono una quarantina di avvocati che difendono gratuitamente i compagni che sono denunciati, gratuitamente vuol dire che lo fanno, è tutto un lavoro che loro fanno come militanti a questo punto, e c'è gente, non solo i militanti classici, e quindi c'è da quel momento in poi, per esempio i presidi erano nati là dove volevano iniziare i lavori. Los presidi sono los campamentos que se hacen en lugares que non hanno fatto lo stato. E sono andati avanti come centro di cultura diversa, ma anche come centro di socialità diversa. Sì, che anche fueron para evitar que hicieran las obras, luego se convirtieron en un lugar de socializzazione e culturale. Al presidio vale la legge che era quella degli antichi eretici dolciniani e che poi fu ripresa anche da Karl Marx in una delle sue opere, sì, e cioè il discorso contro il discorso di quota, e cioè dare ad ognuno secondo le sue necessità. Io utilizzava la legge di cada qual secondo su possibilità, di cada qual secondo su necessità. Esattamente, prendere da ognuno. Perché stai parlando di quella lotta dei fratelli dei Giorginiani, sì. A Fusolena. Che io l'ho avviato passato direttamente al testo, però. Non so in che momento, nella Edad Media, pues había como hermandades religiosas comandadas por un religioso algo chino, digamos, que practicaba un tipo de religiosidad cristiana revolucionaria, de cada cual según sus necesidades, y al final las autoridades italianas terminaron y papales. terminaron reaccionando enviando ejércitos a acabar con toda esa gente que eran campesinos que no tenían nada y compartiendo con otros. Entonces lo que está diciendo ella es que esa costumbre vuelve y la retoma. Y, sí, y esa frase que conocemos por Karl Marx en realidad es muy, muy anterior. E a Bussolena è nata una casa del popolo nel 2005 che si chiama La Credenza. La Credenza, non perché esiste un mobile, la credenza, no? Ma per la regola della credenza, che era proprio quella dei dolciniani, no? La regola del dare a credito a ognuno secondo i suoi bisogni e prendere da ognuno secondo le sue possibilità. Per cui a questi presidi si può andare, chi può mettere qualcosa, mette anche più di quello che prende, sì, che vai, chi non può mettere niente ha comunque quello che gli serve. O ha molto meno di quello che vuole trovare per la sua necessità o anche al contrario. No, cioè uno, se uno ha bisogno, non ha da mangiare, va, mangia. E basta. Se uno ha qualcosa di più, magari non mangia neanche, va e mette. Quindi si mette in comune quello che, no? Ed è un, diciamo, un embrione anche di un modo di vivere diverso, che ha attratto un mucchio di persone, gente che stava davanti alla televisione a farsi una vita misera e che è uscita non solo a difendere la propria vita e il futuro dei propri figli. Sì, che non sono salito a parare, posso dire, la sua ma a mettere in discussione una società che se non riesce a vincere il mondo non potrà avere futuro. Per dire una questa tipo di società che se no trionfa. E certo, no, o cambia il modello di sviluppo, il capitale finalmente lo si affossa, ma non sono, ecco, questo vorrei capire, non sono slogan, perché sono, è la lotta di gente reale, non è il ceto politico, no? Non, nessuno di noi è un rivoluzionario di professione, è la gente comune che prende atto comunque o è un politico di professione, no? È la gente comune che ha imparato che si può vivere molto, molto meglio se si vede anche l'altro che ti sta vicino. Sì, tutta questa gente che ha apprendito che si può funzionare molto meglio stando appunto con tu prossimo vicino. Allora, quella resistenza sull'autostrada che abbiamo visto all'inizio non sarebbe possibile se non ci fosse anche questo legame profondo tra le persone. Per cui chi sta vicino a te è tuo fratello, è tuo figlio e non lo abbandoni e ti prendi le botte perché altrimenti le prende lui da solo e magari gli fanno male sul serio. Allora i tempi in cui con un po' di difficoltà, magari con tanta pietà umana, ma senza grande solidarietà, è avvenuta la morte di Sole e Baleno, sono lontani. E adesso quella morte è rivendicata come un proprio lutto da tutti. E questa è la cosa importante. E contro questo non vinceranno mai. Non potranno vincere. Siamo già i vincitori morali di questa lotta. Ed è anche il motivo per cui questa lotta è diventata un simbolo per tante realtà dove c'è solo silenzio e rassegnazione. E quindi andiamo da tante parti a raccontarla, non per farci belli, ma per portare un messaggio di conflitto. Non di pace sociale, non è il momento della pace sociale. La pace sociale uccide, è il conflitto che serve. Questo è il momento. Allora, quello che noi vogliamo dire è proprio questo. Ed è un conflitto che deve essere popolare, che non può essere lasciato a piccoli gruppi, ma che deve essere portato avanti da tutti. Perché è un conflitto anche radicale nella sua lotta. Perché nel momento in cui te li vedi venire addosso, c'era anche gente che diceva, ma guarda, quando te li vedevi arrivare da lontano, fa anche paura, perché ognuno di noi poi ci sono anziani, non sai che cosa, tu sei lì a mani nude tra l'altro per il momento, poi ogni momento avrà, ad ogni azione corrisponderà una reazione uguale e contraria, ma in questo momento sei lì e ti siedi per terra, ti fai portare via. Però quando te li vedi addosso alla fine e sei lì con tutti gli altri, non hai più paura. Non hai più paura e ti senti davvero una collettività diversa. E capisci che tutte le balle che dicono con le televisioni, con i giornali, dove cercano il morto per poter fare pagine sensazionali, non hanno nessun potere. Allora, perché sull'autostrada il 29 di febbraio la gente è andata e siamo andati in tanti Io ho visto questo anziano che si intravedeva lì. Era anche lui davanti agli studi, dietro c'era il figlio, poi il figlio se l'è preso anche lui. Sì, perché quando, quando ho visto che malmenavano suo padre, lui era fermo, vestito da anziano, con la sua giacca e la sua giacchetta, tranquillo, sereno, a testa bassa davanti a loro. Non si è mosso di un passo, gli altri sono venuti avanti, hanno cominciato a strattonarlo, a spingerlo indietro. Lui non si è mosso di un passo, si è preso tutte le volte. Ed è finito in ospedale, eh? È finito in ospedale. E il figlio, dopo di lui, il figlio l'hanno massacrato, perché poi quando ha visto il padre per terra, è coso difenderlo, no? Quindi, è una situazione. Perché questo era capitato? Beh, perché il 25 di febbraio, il 25 di febbraio Luca, nel tentativo di difendere la nostra baita, che avete visto all'inizio, che volevano sgombrare. Sì, Luca Bacca, l'abbiamo detto al principio, no? Era il ciclo della torretta che si sì, sì, si è arrampicato su un traliccio dell'alta tensione e si è arrampicato lì ed è andato in alto, non per fare l'eroe, ma perché c'erano due poliziotti che lo inseguivano per arrestare. Perché non vorrei trascorso la polizia sempre. Allora lui è andato avanti un po' di più, c'è stato l'arco voltaico, l'ha buttato per terra e ancora adesso. Quando è caduto 10 metri, no? Sì, è caduto da 10 metri, tra l'altro è stato un caso più unico che raro che non si sia ammazzato, perché ancora è malmesso, è stato, oltretutto è stato folgorato. Sì, todavía sta con la schermadura, sì, bueno, è ancora in coma. No, no, il coma non più, è uscito dal coma, è lucido. Già salito del coma, però todavía sta. Però non può camminare, ancora fermo, a parte il fatto che era tutto a pezzi. Però anche le bruciature, no? Sono una cosa che ha dovuto fare una serie, ma decine e decine di plastico, perché era tutto traforato dall'elettricità. Gli hanno tolto la milza, aveva il polmone bucato, quindi... Allora, quando la gente ha saputo questo, è andata sull'autostrada. L'autostrada è stata bloccata. Quindi, questo non era solo per una questione astratta, ma perché Luca era davvero tutti noi. Sì, también era perché era gente. Ed è lo stesso motivo per cui davanti alle carceri ci siamo andati in tutti per richiedere la liberazione dei nostri compagni in carcere. Ce ne sono ancora in carcere, a Milano ci sono ancora a Trento, dove c'è un altro compagno ancora in carcere. Altri sono gli arresti domiciliari, uno è anche lì da noi sopra la Credenza, perché l'abbiamo ospitato lì. E comunque c'è una solidarietà grande che viene da lontano e che crea legami reali, no? Reali, da lontano nel tempo ma anche da lontano nello spazio. Voi pensate che per i compagni in carcere, delle cooperative dove lavorano i migranti, tra l'altro, della Calabria, hanno mandato, sì, e i migranti si sono autotassati per mandarli. Se hanno autoimposto una tassa, farà inviare la società. Hanno mandato 2 tonnellate d'arance, che noi abbiamo venduto nel corso di una festa e il ricavato l'abbiamo utilizzato per la cassa di resistenza che abbiamo messo in piedi. Il barbiere di Bussoleno, che era stato fermato il 3 di luglio, che vi dicevo perché aveva tirato dietro un lacrimogeno, beh, aveva dovuto chiudere, l'ha messo in carcere, aveva dovuto chiudere la bottega. I barbieri della valle sono andati ad aprirgli alle appartenenze, perché lui aveva 2 figli a carico. Sono andati a aprirgli la bottega, l'ha fatta funzionare. I terreni di Luca Abba, che è un contadino, e che in questo è un contadino, quindi non potrebbero essere coltivati, sono coltivati dalla gente della valle. Lui dice cosa vorrebbe piantare, eccetera, quindi si tengono vivi e si produce anche per lui, perché lui ci viveva di questa cosa, proprio per una solidarietà che non è la carità cristiana del fare l'elemosina. Ma è qualcosa che tu fai prima di tutto anche per te, perché siamo una collettività vera, rinata. No? E la nostra resistenza ha fatto riscoprire anche a tanti giovani, ma anche a tante persone che erano pure magari lontane da questa sensibilità. Quella che era... Nel senso che coprire non solo giovani, ma anche che stava fuori di tutta questa sensibilità. Sì, ha fatto riscoprire quella che era stata la resistenza contro il fascismo e il nazismo. In Valle di Susa era stata grande. Nel 1943, immediatamente dopo l'8 settembre, i partigiani, giovani ribelli allora, non era ancora l'esercito, poi il bandato, eccetera, avevano messo in piedi questi gruppi di resistenza. E quindi quelle montagne che non vogliamo vedere desertificate sono anche stati i luoghi di quella resistenza. E la valle è stato un luogo di una resistenza poi successiva, le resistenze operaie. E también de lucha obrera. E poi le resistenze ambientali contro l'autostrada, contro lo sperpero della natura. E quindi ha una tradizione anche di lotta. Una lotta che però in questo momento è diventata molto più grande ed è riuscita a coinvolgere essenzialmente, facendoli crescere anche politicamente, tanta gente che invece si faceva i suoi piccoli interessi, no? E quindi è una lotta che va dalla questione del treno alla questione della vita diversa, ma anche alla questione di una resistenza che è contro i governi delle banche, che è contro l'Europa di Maastricht, che è contro la guerra. Che è contro la guerra, perché tra l'altro da noi, lì alla Maddalena, ci sono gli alpini, cioè uno dei corpi militari, sì, poi sono gli della Guardia Alpina, che sono arrivati dall'Afghanistan, prima erano in Afghanistan, e hanno portato lì da noi anche i mezzi blindati che avevano in Afghanistan. con lo carro del comando. A dare maggior visibilità a quella che è l'occupazione militare del territorio. Allora noi ci consideriamo a tutti gli effetti uno dei popoli di troppo, si diceva, contro cui sono state scatenate le guerre dal 91 in poi, in Iraq, no? In Pakistan, in Somalia, cioè le guerre che sono state portate avanti dovunque un popolo si metteva di mezzo e non voleva che il luogo della sua vita fosse utilizzato ai fini di questi grandi interessi. Perché se non accettava l'entrata del colonialismo interesse, no? Allora, Iraq e Afghanistan. Noi siamo stati accusati di essere dei NIMBY, cioè non nel tuo giardino, no? NIMBY è un acronimo, NIMBY. Ah, cioè di non volere l'opera del nostro giardino. Ma in realtà non vogliamo la distruzione della storia del popolo, ci consideriamo profondamente internazionalisti, perché solo così il mondo che ha frontiere per le persone non ce l'ha per le merci. Il mondo che è fatto dalla guerra all'uomo è quello stesso che porta avanti la guerra ai territori. E allora diciamo che questo fa sì che la gente si risvegli e non si addormenti più. Che la gente si perde di anno molto normale. Per cui loro ci sradicano gli alberi, ci fanno morire gli animali, mettono in carcere i nostri compagni, ci processano, ma alla fine perderanno perché noi sentiamo che sotto la terra comincia a pulsare una vita nuova. Che quella delle donne e degli uomini che hanno deciso di ribellarsi e di non spendere la propria esistenza e il futuro di tutti. Il che è davvero una cosa che fa star bene, perché poi la nostra lotta è anche piena di gioia, di allegria. Ci sono dei momenti. Adesso per esempio sabato e domenica andranno davanti alle reti tutta una serie di scrittori a leggere le opere. A leggere le loro opere. Abbiamo avuto vari tipi di solidarietà, anche dalla Palestina abbiamo avuto solidarietà. Non solo perché il filo spinato che hanno messo a recitare il terziere è fatto a Israele ed è lo stesso che viene utilizzato a Gaza, ma anche perché in Palestina sta per partire da una ditta italiana, tra l'altro. Che sarà questa fondazione di un'impresa italiana in Palestina. Una linea ad alta velocità. Una linea ad alta che dovrebbe collegare Tel Aviv a Gerusalemme passando totalmente su territori palestinesi. Per cui quel poco di terra che ancora hanno gliela occupano in quel modo. Io il contratto su una empresa italiana? Sì, la Pizzarotti si chiama, infatti ci sono già a Parma, tra l'altro, ci sono già state delle manifestazioni. Una empresa spagnola sta per fare la linea di alta velocità in Arabia Saudita. Mecca Medina, no? Mecca Medina. Sì, ma perché hanno fatto ma certo, ma perché hanno capito. Allora, le grandi opere non sono grandi perché grandemente utili, ma grandi perché grandemente distruttive, grandemente indecenti. Allora dobbiamo rendercene conto, e voi dovete stare anche con le antenne ben dritte, perché se Lisbona ha detto no, la Spagna invece continua a dir sì su questa linea, e quindi Bueno, que sigue impidiendo que se haga, aunque sea solo hasta abajo, Allora, bisogna sapere, perché sapere è anche poi poter fare, no? E quello che diciamo è che... Saper la cosa, perché se no non puoi attuare, se no non ti dà cuenta di questa cosa. E noi diciamo che sicuramente la solidarietà che riceviamo da tante parti, e anche oggi ne è un esempio, perché io vengo non solo a livello individuale, ma comunque la mia venuta qui è non solo conosciuta dal movimento e approvata, ma assolutamente ho da portarvi un messaggio di grande saluto e di grande solidarietà da parte del movimento che lotta contro il TAR della Valle di Susa. Allora, ogni tassello in più è un tassello che ci dà coraggio e che ci dà speranza, ma sappiamo anche che l'aiuto più grande deve venirci dalle lotte sui territori, perché pensiamo che il lavoratore che non piega la testa aiuta anche la nostra lotta. Lo studente che non accetta di vedersi privatizzare la scuola aiuta anche la nostra lotta. Allora, è dove uno vive, capite? Non è... La resistenza e il conflitto non è della domenica, è di tutti i giorni. E se vogliamo vincere davvero tutti e cambiarlo questo mondo, c'è un modo, bisogna cominciare qui e ora. E poi non lo devo dire a voi che lo sapete bene, che lo portate avanti, e bisogna però allargare, far conoscere le ragioni e anche dare speranza alle persone, perché la speranza non è qualcosa di astratto, è qualcosa che poi riesce ad avere mani per fare, gambe per andare avanti e testa soprattutto per decidere. E adesso basta, io veramente ho grazie a te. Pregunta? Adesso se volete ancora dire, se non vi ho atterrati tutti. Sì, ti do una domanda. Ha dicho usted che es un movimiento muy heterogéneo e me gustaría saber cómo se articula un movimiento que tiene muchos frentes, ¿no? Desde los centros sociales hasta los sindicatos, hasta la lucha institucional, hay algunos alcaldes que se suman. Sì, di come si fa l'articolazione in questi fronti, allo stesso tempo i centri sociali, gruppi sindacali, i sindaci anche, la questione istituzionale, come si fa? Come riesce a dirigiare? Questa eterogeneità di metterla insieme. Ma perché? Come si fa? Che cosa che unisce? In País Vasco che hai un'assemblea. Sì. Cómo se combinan los discursos que simplemente se quedan en el economicismo con el dinero que cuesta esta obra yo podría darlo a invertirlo en sanidad o en educación. Dico que estoy tanto pensando de estos soldi, porque si usan por una cosa por una otra, con el otro discurso. ¿Cómo se combina eso con unas reivindicaciones que ponen en cuestión el modelo de movilidad, de desarrollo? Incluso ya en las prácticas de cómo se combina unas prácticas de desobediencia civil, a veces ilegal, con unos discursos de los partidos políticos. Allora, quello che è stato fondamentale è che il messaggio di lotta è arrivato alle singole persone. Non è. Sì, che sembra importante che è arrivato almeno alle persone come in giro. Sì, cioè non è nato dal ceto politico. E comunicato alle persone, è stata viceversa la cosa. Allora, ognuno ha capito, è stato informato. Alcuni abbiamo anche avuto l'aiuto di alcuni professori universitari che invece di fare gli interessi dei grandi costruttori, qualcuno abitava anche in valle, hanno deciso di mettere le loro conoscenze anche al servizio delle persone. Allora, la controinformazione si rivolgeva alle singole persone e riusciva a coinvolgerle perché... Ti consiglia che arrivarono a involucrarsi nell'assunto questa controinformazione? Poi siamo partiti, perché è partita veramente dalla valle e non solo, non solo perché ci siamo immediatamente poi collegati con alcune realtà di centri sociali di Torino, per esempio a Scatasuna, Scatasuna è legata a noi, ma perché le persone comunque venivano in valle, noi avevamo alcuni giovani che frequentavano Scatasuna a Torino, per cui è partita dalla valle, non è un modello importato comunque, è qualcosa che è nato dal basso e abbiamo costruito alcune strutture che dovevano servire alla controinformazione e soprattutto al controllo dei territori. E le strutture più importanti sono state appunto i comitati. Il primo comitato è nato nel 99 ed è il Comitato di Lotta Popolare, che vede noi di Bussoleno insieme ai compagni di Scatasuna. Abbiamo messo in piedi questo comitato, abbiamo fatto i primi presidi, e poi però, visto che non era una questione di attirare comunque persone nelle nostre formazioni, abbiamo favorito la nascita di tanti comitati in valle. Praticamente ogni paese ha il suo comitato. Cada uno dello quartiere. E non perché si portava da fuori il verbo, ma perché la gente del paese, giovani, meno giovani, chi aveva più tempo, chi aveva più interesse, hanno cominciato a prendersi carico e di far sapere agli altri anche di controllare il territorio, perché quando volevano arrivare a fare le trivellazioni nei vari territori c'era chi andava in comune, le trivellazioni, cioè i sondaggi, i sondaggi, no, la prima poi dicevano ma non è l'opera, sono i sondaggi. Noi però abbiamo anche fermato e siamo riusciti a fermare finora tutta la parte preparatoria dell'opera, per cui i loro progetti sono carte sono linee sulle carte geografiche, no? Allora, è così. Anche persone che sembravano lontane, poi sono state coinvolte, anche perché hanno capito l'utilità concreta per la loro vita, no? Sì, perché hanno iniziato anche la seconda veramente perché tanto a livello collettivo come anche para ellos era hanno sentito che era messa in discussione la loro stessa esistenza e che c'era la possibilità di contrastarla quest'opera perché eravamo tanti. E poi c'è una struttura, diciamo, che comprende, c'è poi il coordinamento dei comitati, ma c'è anche qualcosa di più, c'è l'assemblea popolare, assemblea permanente si chiama, e ogni tot ci riuniamo. Allora, c'è chi partecipa ai comitati, ma ci sono anche persone che non fanno parte dei comitati, che magari sono arrivate più recentemente, che vengono e parlano. Allora, lì si organizza, senza nessuna rigidezza però, no? Si organizzano le lotte, quindi si controlla il territorio, si va a vedere, si studia, si approfondisce, si fanno le azioni che devono essere fatte, si mettono in piedi anche gli strumenti, per esempio le maschere antigas, siamo riusciti a comprarle uno stock di tante maschere, il primo stock era sequestrato, perché lo distribuiamo alle persone nel momento in cui vanno davanti alle reti, no? E poi si sono fatte assemblee, si è coinvolta la gente minimamente, con anche una certa libertà, una certa apertura. Non è che tutto si stabilisce lì e se non è stabilito lì non si può fare. In base al momento, se tu ci sei sul posto, vedi anche cosa serve. E la gente... Sì, per questo io ti sto mirando la cara, visto la faccia seconda, la faccia, la faccia traduzione. Io invece no. No sé, oye, ¿traduzco mucho más? O... Sí, vale, es que... Pues me vendría bien para fumar un cigarro, realmente. Allora. Sí, aspetta, un file de debo... Salva. Se me ha olvidado cómo llamar, Salva. Salva. Yo le hago un par de 10 minutos que yo soy un poco... Yo faccio la traducción, pero fa un saco de tiempo que se va a hablar y... Piano, piano. Y el problema es que esto también me estaba poniendo, que me estaba yendo mucho a sentirme, a sentirme, sentirme. Lo no so, perché poi io non mi ricordo mai che tutto questo è pure. Grazie un po' sopra. Sì, bajo. Allora, queste strutture che sono strutture leggere, non pesanti, ma che sono anche però strutture autorevoli. Perché? Perché all'interno c'è chi poi lotta veramente. E c'è rispetto reciproco. Quindi anche realtà che poi vengono da tante parti, anche magari come, diciamo, come filosofia, come forma politica, sono magari anche diverse tra di loro, però tu riesci a mettere insieme le cose perché c'è la lotta reale. Sì, lo che viene a dire è che anche lì hai gente di suo padre e di sua madre, gente molto diversa, sostiene le luci che possono vivere qui, che possono vivere in assemblea, cada uno más o menos intentar conciliar sus intereses, o sea, sus ideas para intentar, porque hay algo que une que está luchando contra esto. Per cui, non è, e diciamo che sicuramente ci sono anche, non i partiti, ma i militanti dei partiti, che però sono all'interno di quella lotta e a quella lotta si attengono, no? E poi c'è, capito, quindi non è il partito che ti manda. Casomai viceversa. Claro, hay muchos militantes de partidos políticos, pero no es el partido político que traza las directrices, sino los militantes políticos que, digamos, disuelven su identidad política y se rigen por la asamblea. Poi non sono mica molti, perché c'è Rifondazione Comunista come partito. Quindi c'è. Ci sono vari gruppi anarchici anche lì, anche in quella piccola composizione che voi avete visto seduta per terra davanti ai poliziotti, c'erano un po' i volti di tutta una serie, no, di realtà e di sensibilità diverse. Abbiamo visto che aveva una trentina di persone assentate in Russia, aveva una mescolanza tremenda di gente di tutto tipo. C'erano i giovani di quelli che si chiamano i gruppi anarchici non inquadrati nella FAI, diciamo, no? Più aperti. C'erano i giovani delle case occupate, c'era Rifondazione, c'era Scatasuna, c'era addirittura il segretario, diciamo il portavoce del gruppo, avete visto Cremaschi, no? Che lui era stato all'interno della Fiome. Lui era della Fiome, cioè del sindacato della Fiome. Lui è un comunista poi in senso ampio, insomma. O sea, que ahí está gente de Ocupa, de Ascatasuna, que es un centro social de Torino. Y sí. Este miembro de un sindicato comunista. Però lì ognuno c'era come persona che metteva se stesso, capito? Quindi quando sei lì, uno vicino all'altro, quello che ti sta vicino è un fratello, è un figlio, è qualcuno che tu devi difendere per difendere te stesso. Quindi nasce una solidarietà che va ben al di là di quelle che sono le divisioni tradizionali, ed è la forza reale, ed è quella che contagia anche persone molto più moderate, ben pensanti magari. Da lì nasce uno slazzo di solidarietà che non si trascende nelle forme politiche tradizionali. Che però ne escono trasformate, ne escono trasformate, perché di fascisti lì non ce ne sono, perché ve l'ho detto, noi chi strumentalizza da qualsiasi parte sia non va. Però c'è anche gente ben pensante che magari a suo tempo ha votato la DC, ma non lo farebbe più, perché è cresciuta, perché ha visto, perché non si accontenta più di fare il ben pensante, perché sa che il poliziotto non è lì per difendere te, ma è per difendere gli altri grandi interessi. E quindi possiamo dire che questo movimento ha anche fatto crescere politicamente. Il risultato potrebbe essere che, incluso le persone che ella chiama, se ponia ben pensante, gente che non era di izquierda, ni muchísimo menos, gente che poteva votare a la democrazia cristiana, y se ha dado cuenta que los policías allí no estaban para defender los intereses de la gente, sino estaban para defender los intereses de los constructores, de los constructores, etc. Entonces ahí pues, nace un tipo nuovo di arte politica. E quindi possiamo dire che il motore di questa lotta è la non delega. Claro, es una frase muy típica en Italia, que ya lo he oído alguna vez, que es la no delegar. O sea, la esencia del movimiento sería no delegar, es decir, no es que tú la asamblea eres frontal. Luego ahí se usa mucho sobre la no delegar, que es no delegar tus decisiones soberanas en pues, un representante, ¿no? En un portavoz. No, difatti non esistono neanche portavoci. Non è portavoce. Non esistono. Esistono persone che si vedono un po' di più perché magari parlano altre cose. Però anche questi portavoce sono più costruiti dai mass media da fuori perché non riescono a capire che noi non abbiamo bisogno di portavoce. Allora, incluso quando hai persone che stanno un pochino más, es más bien los medios de comunicación que construyen artificialmente esas personas que parece que están más que otras, pero que no terminan de entender que eso sea posible. Poi sicuramente ci sono persone che da più tempo sono all'interno della lotta, che magari sono suscitano la fiducia, però nessuno si arrogherebbe il diritto di comandare agli altri. Speriamo che nadie si arroga il diritto a dirigere la lucha. Quindi è questo, ed è anche una cosa che avvega le persone, perché delegare vuole anche poi dire che tu non ci sei più. Non solo non ci sei più perché l'altro poi magari lo lasci solo e non fa più quelli che sono i tuoi interessi, ma perché non sei più direttamente coinvolto. Allora bisogna parlare a ognuno. Noi diciamo che non solo tutti sono utili, non diciamo tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Diciamo che tutti sono indispensabili. Ognuno deve sapere che senza di lui la lotta ha qualcosa di meno. La sensazione sarebbe che non è indispensabile. Todo lo contrario, o sea, ser sí, todos, no, que nadie es imprescindible, nadie es imprescindible. Que tutti son, que tutti son, no es imprescindible. No, no, no es la frase típica de todos son útiles, aunque nadie es imprescindible, no, aquí es todos son imprescindibles. Sí. Que la lucha pierde en el momento en el que uno se va, ya la lucha está perdida. E poi non è che uno ha un ruolo prefissato e fa solo quello, no? Perché poi davvero bisognerebbe capire anche il livello culturale che la gente ha raggiunto, il livello di conoscenza, ma anche conoscenza approfondita del fatto. Anche lì abbiamo rifiutato di delegare, abbiamo portato il sapere dall'università alla strada. Dice che la gente ha adquirido un nivel de conocimiento cultural, o sea, un nivel cultural que, claro, se refiere a tener tanto de conciencia, sino sí, de conciencia que está basado, pero claro, también de conocimiento sobre la misma obra. A mí, muchos años atrás, un compañero italiano me decía que gente, digamos, no muy, no sé, pues un barbero o quien sea, le hablaba de las obras de tren de alta velocidad con un nivel técnico que mi colega lo flipaba, o sea, decía, ¿cómo sabe esta persona? Entonces, lo que venía a decir mi compañera es que el saber se ha pasado de la universidad a la plaza, que ahora todo el mundo compartió. Sí, porque tutti hanno el derecho de saber. Noi, perché io sono vecchia, ho già fatto il 68 a Torino, eccetera. Noi dicevamo che sapere è potere. È vero che se tu non sai, non potrai mai, ti sentirai una nullità. È vero che non basta sapere se poi non fai. E in questo, diciamo che la nostra lotta è riuscita a rimettere insieme il braccio e la mente. Non c'è più chi decide e chi esegue, ma chi decide e esegue anche viceversa. E lì è una grande cosa. La lucha consiguió unir il braccio che ejecuta e la cabeza che piensa. Entonces ahí no hay alguien que manda y lo que obedece, sino que está todo. Hay gente que piensa, actúa y gente que actúa y piensa. No hay unos dirigentes y luego que dan lo mejor. E lì il problema. E non è che non litighiamo mai tra di noi, perché adesso vi sto facendo. Ovviamente tanto discutere un montone. No, si discute, si litiga anche, poi però alla fine si decide non per alzata di mano, ma perché vabbè, sappiamo che le cose. Questa unità è una cosa importante, non puoi metterla in discussione per poche cose. E poi alla fine tutti arrivano allo stesso punto. Per esempio, facciamo un esempio. La questione della della baita, della baita clarea. Sì, da questa casa che ha lancio quella presenta. Che non dire la farai da sola, la lancio la potete rivelare. Allora, ce l'hanno sequestrata, perché noi l'avevamo fatta senza chiedere i permessi, anche perché sapevamo che non ce l'avrebbero dati. Era costruita in pietra, bellissima, è uno dei più belli edifici, che poi abbiamo detto non serve a noi, non è che ci facciamo la villa privata, no? È una piccola casa che doveva servire, l'abbiamo fatta anche con muri spessi, perché abbiamo detto se cercheranno di buttarcela giù, non ce la faranno così facilmente, perché ci preparavamo a resistere lì dentro. Poi la resistenza è venuta diversamente, anche perché le loro tattiche, le loro tecniche erano diverse da quelle che noi potevamo immaginare. Quindi anche lì bisogna contrastare minuto per minuto. Devi anche avere la capacità di cambiare la strategia. Se costruisci la casa, deve essere un punto di resistenza, no? Comunque... Che se anche sì, certo. Muy bonita, non si ferma bene, di piedra, muy grueso, para evitar que luego venga la madera y la tiren abajo, aunque luego se ven desbordados en un primer momento, no puedo, porque sus sí. medios técnicos son bastante sí, buenos. Sí, no, avevamo... Entonces ella habla de que existe esa necesidad de ir, ¿no? Pues a reactualizar. En cada apartamento también, ¿no? Allora, questa baita a un certo punto non aveva ancora il coperchio, avevamo tirato sui muri, ce l'hanno sequestrata, sono venuti e l'hanno messa sotto sequestro. Cioè la polizia l'ha recintata, sì, sì, solo con quei muri, i muri con, e con i cuori. Non c'era ancora il tetto, non c'era il tetto. Allora, era ottobre più o meno, e noi sapevamo che il lavoro, perché dentro era già stato fatto il lavoro, sarebbe andato perso, e poi non volevamo cedere, perché loro si preparavano a costruire i muri esterni senza alcun permesso edilizio, e noi non potevamo costruire una baita che non era la casa delle vacanze, ma l'avevamo già messa anche a disposizione del comune, no? Tra l'altro anche un posto come posto tappa. Tra l'altro una cosa che è anche spiritosa e bella, questa cosa è costruita sul percorso, su quella che si chiama la via dei Franchi, che è la via verso Santiago di Compostela. Passano di lì i pellegrini, arrivano dalla Francia e scendono giù per andare a Roma, arrivando da Santiago o viceversa. E ci sono proprio... Allora, sono passati pure dalla baita una volta, perché poi lì loro passano, hanno credo, io non ci sono mai andata, non sono credente, praticante, però tanti fanno questo cammino anche per conoscere i luoghi. E quindi arrivavano, ogni tanto passava qualcuno, e uno ci presenta un foglio per mettere la nuvola. E come il Camino di Santiago, incluso a fianco, parata del Camino di Santiago della tappa, arrivava uno per che le firmaran il passaporto, sì. E noi gliel'abbiamo messo l'annullo, perché avevamo preparato un annullo da mettere sui soldi, dove c'era scritto notar e quanto sarebbe costata l'opera, per cui tutti i nostri soldi erano timbrati. L'aveva inventato Luca quell'annullo. Allora ce l'avevamo lì, gli abbiamo timbrato. Il museo per cui... un segno che lo tenevo preparato para los billetes, para los euros, che con gli mettevamo per cui l'abbiamo, per cui sarà l'unico, sarà anche una rarità. Però vado avanti a raccontarvi questa storia. Allora che cosa facciamo? Ci troviamo e diciamo non possiamo lasciare la cosa così, perché allora vuol dire che non... E quindi abbiamo deciso in piazza, nel paese, che cosa fare. Qualcuno era per andarsene a casa o per cintare il comune e fare queste cose qui. E invece qualcun altro di noi diceva no, è là la lotta. Noi che possiamo lasciare questa cosa, perché noi possiamo cintare tutto il mondo, è là che loro non vogliono che andiamo. E quindi abbiamo deciso, a un certo punto abbiamo detto, non ci mettevamo d'accordo, abbiamo detto andiamo giù e vediamo, arriviamo là davanti. Siamo arrivati giù, già giù non erano più venuti molti, però quelli ancora che venivano, qualcuno... Vabbè, poi io mi sono messa a parlare e ho detto adesso qui non solo siamo venuti giù, ma questo nastro lo dobbiamo tagliare, perché altrimenti no. Claro, o sea, la cosa es que cuando se encuentran en la casa precintada, se reúnen en la plaza del pueblo y dicen, no, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y hay gente que piensa en esa casa, gente que piensa en hacer... ¿Quién representa el ayuntamiento? Ah, el presidente del ayuntamiento. Y entonces no se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos abajo a ver la casa y vamos a ver qué decidimos. Y cuando llegan ahí abajo, algunas personas dicen, joder, pues vamos a romper Sì, bastava soltanto romperlo perché era un segno. Intorno naturalmente sull'autostrada c'erano tutti i poliziotti, perché adesso ci sono le telecamere dappertutto, quindi aspettavano che cosa avremmo fatto. Allora, la maggioranza di quelli che erano lì, soprattutto i più anziani, non erano molto d'accordo. E che cosa si faceva? Se tu tornavi indietro, lì non ci tornavi più. E allora in due o tre siamo scesi eravamo su una piattaforma a parlare, siamo andati là e l'abbiamo portato. Allora, dice che in questo momento, pues, soprattutto la gente più anziana, non stava d'accordo con la cinta, però che también veían che a lo mejor era la sua unica opportunità per stare lì. Poi no, se si iban, poi ya no erano a volver, pues a lo mejor lo hubieran portato. Entonces, en ese momento stavamo su una piattaforma e varie persone hanno bajato e hanno portato la cinta. E non eravamo molti, e poi intanto la gente ha cominciato, qualcuno ha cominciato a entrare, altri non sono entrati. Non sono entrati nella casa? Allora, lì c'era stato un momento un po', ma la domenica dopo sono arrivati tutti, anche quelli che non erano d'accordo a farlo. Per cui, a volte, questo voglio dirvi, no? L'unanimità non è qualcosa di astratto, è poi qualcosa di concreto. Perché lì non potevamo andarcene senza fare quello, perché il giorno dopo sui giornali ci sarebbe stata la notizia che comunque il movimento aveva accettato l'imposizione e la cosa non andava fatta. E quindi col senno di poi, lì è stato un momento non facilissimo, però col senno di poi è che era giusto averla fatta questa cosa qui, perché poi non solo tutti l'hanno rivendicata. Claro, lo que dice es que el domingo, o sea, incluso el domingo siguiente, ya la gente que no había estado de acuerdo ya al final entraba todo el mundo, digamos que se aceptó, ¿no? O sea, que digamos que ya la cosa se aceptó. Y digamos que esto es un ejemplo de que las cosas no son fáciles, de la unidad, como he dicho, no es una unidad. No es una cosa abstracta, es una cosa que hay que pelear, ¿no? Digamos, en concreto. Allora, questo però si può fare solo se sei in sintonia profonda col sentire popolare, no? Perché è come in casa, a volte si prendono delle decisioni, però poi sai che tutto sommato bisogna anche sapere interpretare queste cose, e questo riesci a farlo solo se il legame è profondo e non è solo formale, soprattutto se non è il legame, diciamo, del ceto politico che lo fa per mettersi in mostra se gli serve qualcosa. No, dice che questo solo è possibile perché hai unos lazos ahí molto forti, che non sono los lazos tipo della lucha politica, no? Dei ambientes politici. Quindi, e anche. Sì, se no tendrías que darte in un'idea di tipo formalistico, e solo è possibile che tu fai una visione che al principio non è nada más con los focos e che dopo se te una. Naturalmente è una piccola cosa, adesso c'è pure un processo e ci siamo dentro molti più di quelli che avrebbero voluto, che hanno rotto i sigilli la prima volta, però tutti sono perfettamente d'accordo e lo rivendicano. Oltretutto nelle settimane successive abbiamo messo il tetto, il tetto e quindi l'abbiamo chiusa bene, abbiamo portato l'acqua, insomma l'abbiamo resa abitabile e tutti poi l'hanno utilizzata fino appunto al febbraio, al 25 febbraio di quest'anno, in cui ce l'hanno presa di brutto e hanno recintato quei muri e le cose intorno. Però fino allora ha fatto la sua funzione, poi lì davanti si facevano anche. Ci sono dei momenti anche gioiosi, per esempio le polente, no? Le polente, quella di farina di mais, le cene insieme, alle reti vengono i musicisti a suonare. Abbiamo fatto il Sabba delle streghe. Aquelarres, que han hecho también aquelarres el día de hacer como la polenta, que es una comida de allí del norte, como que hace con maíz, no, pues como la polenta que hace bien bueno, pero allí de polenta, también gente que lleva músicos a tocar allí. El Sabba delle streghe, no, le streghe, ¿cómo se dice? Brujas, ma il Sabba delle streghe è aquelarres, no. Siamo andate a mezzanotte su, tutte quante le donne, perché è anche una lotta di donne, le donne sono nei presidi, non solo fanno da mangiare, ma decidono, quindi è molto importante. Sono arrivate prima le donne degli uomini, e poi hanno portato anche i mariti, alcune signore soprattutto, guardavano e dicevano, devo andare a casa a fare pranzo per mio marito, poi sono arrivati anche i mariti, perché poi mi sgrida, quindi E anche tutta, capite, c'è anche questo risvolto umano. Siamo andati a fare il sabba delle streghe, là davanti, con tutti, ci siamo imbardate tutte, anche per far ridere loro, che erano tutti dall'altra parte della rete, maledizione. Bene, il giorno dopo c'è stato un terremoto, per cui di tutto. No, bueno, y entonces de la que la récord, de los que están detrás de la reja, ¿no? Los policías viendo acá. Maldición, o sea, maldiciones. O sea, lo que viene a decir es que hay un ambiente de buen rollo. Sí, ma no perché crediamo che sia. Ma perché faceva parte del. C'è anche il momento spettacolare. O i fuochi d'artificio, quante volte li abbiamo fatti? In piena notte andavamo magari loro tutti di là a guardare. Così. Quindi. È anche una bella storia, la gente viene perché poi alla fine si diverte anche, lottare è anche divertente se... Perché non sanno di divertire, no? E poi senza retorica, senza... E quindi siamo disposti ad andare avanti ancora per anni e anni e anni e anni, alla fine ce la facciamo di sicuro. Se gran coraggio c'è la regione, c'è anche la rosia, sicuro. E poi li intontiamo di parole, perché come vedete riusciamo a sommergerli, non avranno mai tante ragioni. E sì, in realtà lo possiamo sinceramente a parlare, no? Ma adesso lo finisco. Bene. Io sì che voglio fare una domanda generale, no? Y sería, tú hablabas de Lisboa, ¿no? Con la crisis, ¿no? El tren de alta velocidad que está proyectado de Madrid a Lisboa pasó por Extremadura. Portugal, cuya economía está intervenida, ha dicho que no hace un tren de alta velocidad en la parte portuguesa, ¿no? Entonces, las obras en Extremadura que ya habían empezado, la parte española en Extremadura ya ha comenzado, no un modo, ¿no? Un poco. Y el gobierno español, el nuevo gobierno español, quiere continuar las obras. Entonces, en Italia, mi pregunta es, Damia, en Italia, la crisis está haciendo ver a políticos o a gente que en un principio estaba a favor del tren de alta velocidad, la crisis está haciendo ver a la gente que es absurdo. O sea, la crisis puede ser un aliado inesperado de la lucha contra la depresión. Y bien, porque, seguro, porque chi vede che tagliano tutto. Adesso, per esempio, nella sanità, noi avevamo gli insegnanti d'appoggio, si chiamano, per i bambini disabili. Hanno tagliato tutto. Hanno tagliato anche il sussidio di sussistenza per i più poveri. C'è una serie di suicidi infinita anche, soprattutto di un'ex borghesia, piccola borghesia, che si vede precipitare e non ha avuto i legami sociali che invece magari abbiamo noi, che il proletariato ha, no? Quindi è un momento, sicuramente anche questo fa pensare, ma fa pensare soprattutto il fatto che loro continuano a voler fare quest'opera e a buttare i soldi pubblici nella repressione, perché ve l'ho detto, 24 milioni di euro dal 27 di giugno adesso li hanno dati a quella repressione che avete visto lì. Lo che dice è che si sta vedendo così come in Spagna moltissimo recorte, si parla della scuola, della sanità, del sussidio a gente che non tiene recursi, y que una pequeña burguesía se está yendo a pique y es una pequeña burguesía que a lo mejor no tiene los lazos sociales, digamos, de apoyo, ¿no? De sustento que sí que puede tener clases más populares, proletarios, etc. Y sobre todo que luego además se ve el gasto desde el verano hasta ahora de la represión que todos hemos estado viendo que lleva un coste de 24 millones de euros. Allora, e poi bisogna dire un'altra cosa, loro cercano di giocare sul bisogno dicendo che queste grandi opere portano lavoro. Allora noi diciamo, lavoro ne portano poco, pochissimo, oltretutto le grandi ditte che prenderebbero gli appalti hanno già lavoratori specializzati che lo fanno, per cui non possono andare a raccontare e sono un numero limitato. E poi comunque un lavoro fatto a quel modo È come il lavoro, è come se uno mi pagasse per distruggere la casa in cui vivo, poi che cosa mi resta? Non mi resta niente. E poi, proprio perché è un lavoro di sfruttamento, è anche un lavoro pericoloso. Perché nel pezzo che ho fatto nel Mugello, diciamo che per ogni 10 km di galleria c'erano in media, se facciamo una media, due morti sul lavoro. Quindi sono. E non è casuale, è qualcosa di connaturato, perché loro ci devono guadagnare su queste opere. Quindi se facessero lavorare in sicurezza i lavoratori, non ci guadagnano abbastanza. Loro mettono in conto il morto, gli serve il morto, gli serve perché hanno risparmiato soldi, perché non hanno fatto quello che dovevano fare. E poi l'altra cosa che diciamo, riferita alle stesse ferrovie, se rimettessero in funzione i servizi che esistevano e che hanno tagliato, per esempio in Italia abbiamo più della metà della rete ferroviaria, ancora binario unico, per esempio in Sicilia. Sì, a parte di... Bueno, que no es solo la cuestión de que no da mucho trabajo, porque en realidad ya tienen las grandes empresas que van a hacer la obra sus propios especialistas, y va a ser poco. Y aparte, si te pagaran, en realidad, es como si te pagaran por destruir tu casa, ¿no? Al final luego no te la voy a dar nada. Sino que también dentro del cálculo están incluidos los muertos, ¿no? Y en una zona cercana salían dos muertos por cada 10 kilómetros. Que están incluidos dentro de las cuentas, porque sí, es un muerto, pero es tal cantidad de ahorro en seguridad, y es eso lo que hace que sea rentable hacer la obra, ¿no? Pero luego, bueno, me he perdido donde estamos ahora continuando. ¿Dónde es que estábamos eso continuando? Stavamo dicendo che se proprio vogliono fare lavori ferroviari in Italia. Ah, sì, che ora stanno ora mismo la más de la mitad de las vías en realidad son vía única. Es decir, no hay lo de dos que puedan cruzarse los trenes, ¿no? E questo ha già comportato un mucchio di disastri ferroviari perché i treni si scontrano. Allora, anche lì più della metà della linea non è ancora elettrificata. Ma è a diesel, quindi con grande inquinamento. Quindi anche nel campo stesso ferroviario, volessero fare delle cose, potrebbero fare delle cose che siano utili, raddoppiare il binario là dove serve, per esempio. Dove non serve no, ma dove serve farlo. La Sicilia è totalmente a binario unico. Vicino a Roma, dove già passa l'alta velocità, io ero andata a fare un'assemblea a Chieti. Bene, loro mi raccontavano che da 40 anni chiedono un pezzo di binario per poter andare a lavorare a Roma in ferrovia anziché sull'autostrada, che comporta disagi. Non gliel'hanno fatta. Ma poco, una ventina di chilometri basterebbe. Ma quello da 20 chilometri. Che non viene non c'è connessione con la ferrovia. Allora loro chiedevano questo, non gliel'hanno fatta, ma gli hanno fatto l'alta velocità che va a finire proprio nei terreni che ancora loro coltivavano. Allora è quello, la gente poi alla fine capisce che cosa vuol dire, no? diventa drammatica la situazione. Quindi sicuramente c'è tanta rabbia anche in questo, sicuramente vedere la compattezza di chi sta in alto e vuole quest'opera e poi ti taglia la vita minima, fa crescere la persona, sicuro, questo sicuro ed è cresciuto. Per esempio il 29 di febbraio, quando ci hanno saccagnati sull'autostrada, in tutte le parti d'Italia, anche fuori Italia, ci sono stati dei blocchi ferroviari, blocchi dell'autostrada, di varie realtà che andavano in solidarietà con noi a bloccare. Sí, eso es divertido, ¿no? Se han dedicado ese mismo día que les han echado de la autopista, se han bloqueado vías de tren, porque Italia también es una zona de Europa. Uno di questi posti era proprio Kiev, dove sono andate 1000 persone con le bandiere no TAV. In Kiev? Kiev. Y uno de los sitios donde se hicieron esos bloques es en... Que dicevano, cosa vogliono? Sì, da sabía che pulmio definitiva del corridoio. Difatti adesso, l'arrivo del corridoio, del famoso corridoio 5, che ha già anche cambiato nome, non è più Kiev, è Pechino. Adesso è Pechino che lo vogliono fare... Hacia Beijing, ora devono fare Kiev. Lo vogliono fare dal Marocco a Pechino. Per cui anche questo fa capire che cosa c'è dietro, però sono già un abisso di soldi pubblici consumati anche solo per fare i progetti, progetto più progetto, hanno già fatto andare un mucchio di soldi, anche se, perché non la costruiranno, non ce la faranno, la gente c'è e noi li teniamo sotto pressione, perché non è facile costruire una cosa così. Adesso ci stiamo attrezzando perché c'è un gruppo di imprese locali che dicono ma noi cercano di entrare nel business. Allora noi ci stiamo attrezzando, andiamo davanti alle imprese a controllare l'uscita e l'entrata dei mezzi, proprio a, diciamo, a contestarli minuto dopo minuto. Allora è così, noi possiamo fare queste cose, facciamo per questo. Cerchiamo di bloccare, più e più volte l'abbiamo fatto, l'entrata e l'uscita dei mezzi della polizia in cambio turni, li blocchiamo, per un po' li blocchiamo, poi ce le piccano, però intanto li tieni. Siamo andati davanti agli alberghi dove sono ospitati e quindi c'è un disturbo continuo oltre che davanti alle reti. E queste cose non posso pensare di andare avanti all'infinito quando poi cominciasse l'opera. Ma quando comincia l'opera, beh, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, non è che staremo a guardare, questo è chiaro. Le persone sono le persone, ma i mezzi sono i mezzi, I mezzi meccanici non soffrono, Però questi sono discorsi che non si possono affrontare così, anche perché non sono astratti. Io credo che la gente sarà pronta a fare le cose al momento giusto, se sarà necessario. Non si fa un passo in più del necessario, però quello che serve, io credo che, come la gente è venuta a tagliare le reti e a prendersi i lacrimogeni, c'è il senso di quello che può servire o non può servire, sempre salvando la vita delle persone, questo è chiaro. Anzi. No, yo lo veo bien tampoco, pero la cosa sería que hay una especie de disturbio continuo, es decir, que no solo se limitan a estar ahí cortando las vallas, ¿no? Pero se puede, ¿no? Sí, no, y también a cuando sale la policía de los hoteles donde están, a bloquearles el cambio de turno de los policías, a estar tocando los cojones todo el rato, y esto antes de que empiecen las obras, ¿no? De forma que lo hacen imposible y como no se puede llevar hasta el infinito, en algún momento tendrán que parar, si no se para por parte de la población, ¿no? Y porque también están dispuestos, la gente está preparada para hacer lo que sea necesario, igual que lo han estado para cortar las verjas o para plantarse en los sitios, van a estar preparados para lo otro. Y la única diferencia que hacen es entre personas o los medios mecánicos, que dicen, no sufren ni nada, entonces con eso sí que no hay cuartel, ¿no? Con determinadas cuestiones técnicas se corta, se cumple con esa. Cioè, y la sola línea está con la vida de la persona. Siamo già andati a bloccare il camion più e più volte anche, no? Poi si sono pure bruciati i camion loro dicendo che eravamo noi lì, non eravamo noi. È che erano vecchi camion che si volevano far pagare. Ah sì, e adesso la di chiamare il camion per che te lo paghi e c'è la colpa a loro. E quindi si sono bruciati i camion da soli, noi non c'entravamo proprio, perché fanno anche queste cose. Erano dello spiego. Sperano sempre che poi la gente si spaventi e torni a casa, ma nessuno torna a casa. Anche perché è in gioco l'esistenza minima. È in gioco l'esistenza minima, senza grandi problemi. E sicuramente, per esempio, è anche nata un'altra associazione, che è quella delle partite IVA. Sapete cosa sono le partite IVA? Gli imprenditori, i piccoli imprenditori locali. Sì, lo sappiamo, con la declarazione di IVA del caffè. I grandi, contro le ditte che invece vogliono associarsi al TAV. Ci sono questi piccoli imprenditori, sono informatici, anche contadini magari che hanno un pezzo di terra, e quindi stanno facendo un progetto di sviluppo a chilometro zero, noi lo chiamiamo. Ah sì, della di che si produce alla minor distanza possibile da dove la si consumi. E quindi gli stanno facendo un questo, ma questo per boicottare queste ditte, no? Sì, per boicottare, per associarsi e non restarle dinero alle imprese che hai in una zona che sì che si chiedono di unire alla... Abbiamo anche messo fuori i manifesti con i nomi delle ditte, e la ditta che fornisce i pasti nessuno più va a comprare alla ditta. Beh. Da nadie compra della stazione del catering per la sola. Cioè che i camionisti sono normalmente sì. Sì, perché poi è così che ti difendi, no? E tutti sono d'accordo a farlo, senza nessun problema davvero, per cui insomma di fantasia ce n'è abbastanza, di voglia, e poi mantiene giovani questa lotta, perché da noi non c'è differenza tra generazioni, ma è vero, tantissimi, i giovani della vostra età e le vecchiette come me hanno un punto in comune così forte che il famoso conflitto tra generazioni, che i vecchi sono barbosi, un po' barbosi lo siamo, però loro non ce lo dicono, no? Perché? Perché è così? Perché è anche bello, no? È un bagno di eterna giovinezza, quindi fa bene alla salute anche lottare. Che è il suo bagno al fuoco per tutto il mondo che stai facendo? E se il punto comune è il supposto conflitto intergenerazionale? Di eso sì, eso che quería decir. Nada, no quería decir que son las 9:30 y que son las 9:30 y que nosotros, pues eso, que tenemos más cosas que hacer aparte de esto, y que si yo podría decir que fuéramos terminando, que la última pretensión que quisiera hacer para terminar. Sí, lo llevamos un día para hablar un montón de cosas. No, ma, abbiamo finito. L'ultima cosa, che la lotta no tower ha portato turismo in Valle di Susa, perché la gente viene e c'è un mucchio di giovani che vogliono venire a abitare in Valle di Susa, perché hanno trovato la dimensione di vita anche giusta, no? Non, quindi che vengono, che si mettono a disposizione con una generosità infinita, perché... E poi ci sono anche idee geniali, per esempio un'idea, non so, poi fa ridere, è una spiritosaggine, si potrebbe anche fare, che loro vogliono fare il tunnel, ma il tunnel glielo facciamo noi per superare le reti, buchiamo sottoterra e sbuchiamo, e naturalmente i primi a sbucare saranno le vecchiette, perché così vogliamo vedere, perché lì è terreno oltretutto militare, vediamo un po'. Ecco, un'altra cosa interessante, una signora più anziana di me, quando hanno espropriato i terreni, lei era una delle proprietarie dentro, si è incatenata alle reti e non sapevamo come fare, noi non potevamo entrare perché non eravamo proprietari, l'avevamo messo in testa a lei sta cosa. È andata, abbiamo i giovani sono andati, non sapevamo come fare perché era un po' pasticciato dover prendere la catena, mettere il lucchetto, era lungo, non poteva farcela. Le manette ai poliziotti non potevamo andargliele prendere, allora i ragazzi sono andati in un sexy shop a comprare una di quelle manette, no? E lei si è incatenata con queste manette. Sì, questa signora, perché solo poteva dire, era la maggiore, era la proprietaria, non poteva dire, lo tenía che fare ella sola, non poteva ir con il candado e la cadena, e al final tenía che dare eso al sex shop a comprarle unas esposas, pues la cosa fue quitar a los policías. Y antes iba una idea de estas grandes ideas que surgen, que gente era un poco de como medio graciosa de cachondeo, medio de verdad, que era de coger para poder pasar las vallas, hacen un túnel ellos, ¿no? Y que los primeros que salieran del túnel fueron las señoras mayores, que sí, quizás funcionaba un poco mejor, ¿no? Y que empiezan a salir las ideas de todo tipo. Las ideas son tante, por cui... Insomma, è anche così bello lottare, si conoscono tante persone, tante cose, uno davvero non è più solo, contro l'alienazione, contro la solitudine, c'è la lotta, e di occasioni ce ne sono tante, e uno non si sente più una nullità che non... A parte il fatto che vengono le televisioni e tutti sono ripresi, quindi ognuno diventa celebre, no? Però a parte quello, beh, uno ha imparato a non stare ad arrabbiarsi davanti alla televisione, perché non puoi interloquire. Esci, torni, ti riprendi la piazza, la strada e torni a parlare, a guardare in faccia le persone. Sì, che uno apprende già a non cavarsi davanti alla tele, sino a salire, tomar la calle, unirte a la gente y tomar las decisiones tú mismo en vez de estar con la tele y para hablar. Così è, quindi le occasioni ci sono, non perdiamole, perché poi magari sarà anche troppo tardi, perché queste situazioni così difficili, adesso per fare un discorso che va al di là del TAV, proprio un discorso di carattere politico e sociale contro questa crisi indotta chiaramente, e beh, se non prendiamo in mano noi la risoluzione di questi problemi, nel senso che la lotta deve crescere e deve continuare, deve essere continuativa, se la prenderanno magari gli altri in mano la situazione. Il rischio è proprio questa destra sociale che cerca di far pagare la crisi ai più poveri, ai più deboli, magari ai migranti che vengono a cercare lavoro e per cui il diritto di cittadinanza non esiste. E a proposito di questo, a fine giugno arriva a Bussoleno, in Valle di Susa, la marcia dei San Papier. Arrivano da Bruxelles, i San Papier, cioè quelli sì, no, che comodamente si une con... Me estaba diciendo que si no se le da un valor político total a la contestación contra el hacer pagar la crisis inducida a los niveles más pobres de la sociedad, que incluiría a los inmigrantes, pues eso lo une con el hecho de que va a llegar la marcha de los sin papeles desde Bruselas y va a pasar por eso, ¿no? Sí, cioè. Anche il fatto di far pagare i più deboli, no? E questo poi è il rischio, che se non si parte dall'uguaglianza reale sono poi i più deboli che la pagheranno, perché questo è. Allora, arriveranno e facciamo una festa a Bussoleno e anche loro vengono a darci solidarietà, anche loro alle reti, anche loro contro un lavoro che non è lavoro. E guardate che è tanto questo, eh. È tanto, come ci hanno dato solidarietà con le arance, adesso vengono a darci solidarietà dicendo che quel lavoro lì loro non lo vorrebbero, perché va contro i diritti reali di una vita diversa, va contro anche loro, e non è poco, non sono solo parole retoriche, eh. Così bisogna fare. Abbiamo, negli anni 80, quando è finito il grande sogno, la grande lotta operaia, e la Fiat di Torino era stata occupata e poi l'occupazione ha dovuto finire, davanti alla fabbrica gli operai avevano messo un cartello che diceva: avevamo la ragione e la forza. Ci è rimasta la ragione, coraggio compagni. Sì, quando nel 80 si acaba l'occupazione della Fiat, lo que se dejó al final cuando se desocupó un cartel que ponía que teníamos la razón y la fuerza y solo nos ha quedado la razón. Así que fue ánimo, compañeros. E adesso noi cominciamo a dire che la ragione l'abbiamo sempre avuta, ma la forza forse sta anche ritornando, basta solo rendersene conto e volerla, per cui basta, sto diventando retorico, basta. Vabbè, se avete ancora le cose da chiedere, non so. Avete avuto una sopportazione, davanti alle reti sareste utilissimi, perché sopportate. Es que he decidido yo quiero. metido aquí en el cerebro, un poquito de entrar y de pasar, ¿vale? Y así es se può tipo dove è il mouse? Ah, qua il mouse. Ecco, bisogna chiuderla. Sì. E anche l'ultima via. L'ho fatta un po' lunga, Andava bene comunque, secondo te è stato interessante? Sì, anche se penso che io non sono la persona più adeguata, perché io stavo pensando più alle parole che al messaggio a volte. Io però ti sentivo tradurre benissimo, eh. Ah sì, con quello non ho avuto più problemi con quando decidere di fare l'interruzione. Finalmente. Sono più in piedi. Che mi aveva dato la base, quello anch'io ti lo volevo chiedere prima, che stai per fare una piccola tour in altri posti, per fare altre... Allora, domani vado a Saragozza, credo, e poi vado nei Paesi Baschi. Sì. Vado a Donostia e poi vado a... Pamplona, e poi vado a Bilbao. Sì. E poi torno in Italia e l'1 sono a Bergamo, il 2 a Lecco e il 3 a Bologna. Sì, cioè vai in Spagna prima lì, poi ciao. Sì, mi avevano organizzato su due incontri lì, Madrid e Saragozza, perché c'è questa ragazza che si chiama Catherine, credo, che ha organizzato, sì. Domani, non lo so se è per dopodomani o per domani che l'ho organizzato, perché non... Il peccato è che non c'è ancora il chef in Paesi Baschi, perché questo non lo potrei andare più velocemente. No, però guarda che è una contraddizione reale, ma sai quante volte devo prendere la freccia rossa perché altrimenti non arrivo in posti dove dovrei arrivare. Io ancora non mi sono visto in quella situazione, non l'ho mai voluto prendere. È che qua in Spagna succede la stessa cosa in Italia, perché ci sono tante rapidamente un treno, uno di tutte quelle che... Sì, in Spagna c'erano, ricordando i miei genitori, che come si chiamavano, uno tren che avevano in Spagna. Sì, no, perché Estrella. C'erano un tipo di treni che erano notturni, molto economici, più o meno popolari, e che avevano questa particolarità che quasi sempre erano notturni. E si chiamavano treni Estrella. Estrella. E collegavano tutta Spagna. Cioè, per esempio, da una punta all'altra di Andalucia, nord-sud, e solo rimane una, che è Barcellona, lì, per esempio, per andare di Madrid a Toledo. Toledo è a quanto chilometri? 60? Con la macchina di mezz'ora, sì. Non ci sono treni, ma in tanto, per andare di Madrid a una città che è a 50-60 km. E per andare a Zaragoza, per esempio, soltanto c'è il TAP. Ma non c'è un'altra cosa. Che tra l'altro non può andare alle velocità che dicono, perché come parte sarebbe già fermo, capisci? Perché ci sono anche poi degli aspetti tecnici, no? Sì, che bisognano molta distanza per metterti, non è che ti puoi kilómetros, 300 kilómetros, claro, come un comer su una Ferrari, no, si es un tren, sí, alto, sí, un tren, no, que es o fare 300 kilómetros, pero es una Ferrari, sí, en 10 segundos ya. Y pensé que a Galicia, que era no, al nord, al nord-est, o sea, volevano fare y tener una alta velocità, pero fermándose, o sea, ogni mezz'ora son una cosa. O sea, dentro, o sea, pude dentro de la sua lógica mercantil, o sea, no era una rentable. Pero es que el político con España dijo, no, sí, la crisis y tal, pero el TAF se fa. Sì, ma il conflitto con le fermate è perché tutti vogliono la fettina di una fermata là, anche se poi il progetto alla fine finisce per non essere un TAF, per tutte quelle fermate, no? Ma quello non è il problema è che quelli dell'altro paese hanno una fermata e quelli no. Cosa succede? Cioè, io sono di una città. Hanno fatto la Cuenca, io sono di Cuenca, che mio padre è italiano di Cuenca, e alla fine sono. Sì, hanno preso quella possibilità e hanno detto: no, il treno Madrid-Valencia, che quello sembrava più o meno logico, alla fine farà Cuenca e poi Albacete e poi, no? Che alla fine fa più lungo di quanto grazie. Sì, io sono arrivato a fare e io ricordo come 12 anni fa, quando stavo per finire il liceo, che si facevano le manifestazioni non contro il TAF, ma vogliamo il TAF qua, erano manifestazioni di altre persone, diciamo, una cosa seria. Sì, ricorda la mia. Sì. Era la lucia, era una lotta tra la sua città e la mia, c'era un po' questa. Sì, era come che era un privilegio avere. La linea che passava di là e si fermava. Ma poi, sai, questo concetto di progresso disgraziato, perché progresso è un regresso, questa roba lì. Vai indietro perché impoverisci i territori. E poi l'altra grossa bugia è che da noi dicono non sarà solo per i passeggeri, anche per le merci. I carichi sono diversi e le merci non possono viaggiare sulle linee dei treni ad alta velocità, perché distruggerebbero tutto davvero. Cioè anche il costo poi di mantenere una linea così è una cosa, anche se lo facessero, è una cosa senza senso, ma loro vogliono iniziarlo e poi mollarlo lì. E diventa un pozzo senza fondo, dove andrà a finire il denaro pubblico infinitamente, perché poi lo cominci, devi metterlo in sicurezza, lo cominci e poi ne fai un pezzo per volta, te lo chiedi sempre lì. Lì i soldi di tutti andranno anche così, è davvero un bellissimo. L'unica finalità è quella, sono questi grandi interessi. In città. Bueno, arrivavo quando ci sarei. E devo andare al. Quando entriamo perché ho amici. Ah sì, quando. Che partecipavano nella lotta. Quando lo so. No, per dire in città. Quando sarà la. Dunque, perché io la partenza ce l'ho il 31 giovedì. Il 25 potrebbe essere un mercoledì sera. Questo mercoledì prossimo? Sì, mercoledì la prossima settimana. Vale, te lo scrivo in caso che ci sia. Che ci siamo attenti a. Sì, che cos'è? Perché sono qui. Vado là e loro mi portano. So che è fatto da Pietro, quindi presumibilmente l'ultima iniziativa ce l'ho fatta. So sicuramente che vado in Rugna, che poi è proprio. Sì, dai, in Rugna è proprio. Sì, sì. E poi è proprio a. La nostra nave. Perché io sono stato mano a Italia, ho conosciuto persone, di Bologna, sì, che hanno un'altra città che si chiamava Ulivo. Sì. Io, bueno, sì. Io ho conosciuto via una signora incredibile. Quindi è che lo vogliamo andare a pagare, no? Che si chiama Tania. Poi ho conosciuto un altro che si chiama Massimo. Ma Massimo è diretto? Sì. Ma c'era lì prima? Allora, quello che era seduto di fianco a me. Ah, non lo so. Era Massimo. Sì, vogliamo essere conosciuto che siamo andati a Bologna, sarà una persona che lui era lì. Sì, Sois unos capullos que os dejáis la grabadora encendida, mamones.